propongo che ci siano anche dei bordelli, come vengono chiamati, per le donne. Perché noi donne, ci sono delle donne che hanno delle esigenze come degli uomini, perché noi donne no e loro sì. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sono in albergo, mi sono appena sposato. Mia moglie è al bagno, si sta preparando per affrontare la notte di luna di miele ed io sto con le cuffiette, col podcast, col mio iPad a sentire la zanzara. Lavoro tutto il giorno, mi faccio un culo grande come una casa. Poi però arrivano le 10:30, torno a casa, mi metto in ciabatte, accendo il computer, vado sul sito della zanzara e mi ascolto il podcast. Ah, il momento più bello della giornata. Cosa ne penserà Squinzi della colletta per inchiappettare Curciani? Siamo al top. Parenzo, sta sfuggendo un po' di mano questa storia, eh? Cioè, sta veramente sfuggendo di mano, perché delle persone che non hanno capito quello che ho detto, evidentemente, no, hanno capito perfettamente, stanno facendo capito. Una colletta. Io di fronte alla colletta, che faccio di fronte alla colletta? Sono costretto. Come direbbe qualcuno, so cazzi ormai. Cioè, stanno facendo una colletta. Chiudi gli occhi e enjoy. No, beh, enjoy per 200.000 però, Non so se enjoy, guarda, non lo so. Enjoy, io sono non lo so. Io sono pronto a metterne di mio 200 euro. Allora, per chi sta facendo la colletta, Parenzo... Se io sono pronto a mettere 200 e tieni presente che è arrivato il terzo figlio, che ci sono il biberon, ciucci e quant'altro. 200 latte. Euro sei disposto io a mettere? Io per vedere la scena sono pronto a mettere 200 euro cash. Luciani, ma quali 200.000 euro? Te l'hai già fatto a gratis, per puro piacere. Ciao Crucia, sono appena andato a versare due bollettini da 50 euro perché voglio vincere la riffa. 50 euro all'Arcigay, abbiamo fatto una riffa, basta raggiungere 200.000 euro e sorteggio. Se vinco io, vedi cosa ti faccio. Cruciani, sta roba di 200.000 per inchiappettarti mi sa che sta scappando di mano, Pensa se te li offrisse Rocco. Amico mio, ti vedresti un brutto quarto d'ora, mi sa. Vabbè ragazzi, a proposito di queste cose qui, veramente la situazione sta sfuggendo di mano, perché arrivano messaggi solo su questa cosa qua, Parenzo. E solo su questa cosa, che io ribadisco e che spiegheremo più avanti, bene, più avanti nel corso della trasmissione. No, non c'è da spiegare, c'è semplicemente ormai da attrezzarsi per questo evento. Non ma è che evento? C'è da... Intanto voglio vedere i 200.000 cash, cioè il bonifico, intanto voglio vedere il bonifico, poi vediamo i dettagli. Allora, il personaggio però vero di oggi, Parenzo, qual è secondo te? Lascia perdere l'attualità, lasciala perdere, mettila da parte, questo casino sui mutui, appunto, quello pensavo 18 io. Rate prima che ti sequestrano la casa, prima che te la portano via. Questo è importante, Cioè, secondo te va bene? Cioè, va bene 18 mesi? 18 Beh, mesi certo. di rate non pagate e poi ti portano via la casa? Beh, oppure certo, la 18... casa non si tocca? Oppure no, la no, casa 18... non ho si tocca? Se uno ha fatto un debito e non riesce a rivendere la casa, te portano via 18 la casa. Mesi, te portano via la casa. 18 mesi comunque è più di un anno. Dunque è giusto, cioè, che a un certo punto ti portano via la casa. Un anno e rotti di mutuo, Un anno e mezzo esattamente, ti faccio appunto, presente, un anno e mezzo. Un anno e mezzo appunto. Cioè un anno e mezzo, tu non paghi le rate del mutuo per un anno e mezzo e poi è giusto secondo cioè, te vuol dire che hai tempo, no? Vuol dire che hai tempo un anno e mezzo per rivendere la casa col mutuo. Dopo un anno e mezzo è giusto che ti portino via la casa. Beh sì, c'è delle regole, sì certo. Che vuol dire che uno non paga... Tu che sei quello delle mense per cui no, sostieni i presidi che non danno da mangiare ai bambini, no, veramente, per rate non questo. Pagate, non ho detto lo hai questo. Sostenuto in passato e ora che si parla di case, di bene, per carità, di un anno e mezzo di rate non pagate, quindi uno in un anno e mezzo ha tempo di vendere la casa. e di prendersi qualcosa di più piccolo, di andare in affitto. Ma no, prendersi, te la sequestrano, cioè te la portano via. Se tu per un anno e mezzo non paghi le rate, te la portano via. Esatto. Vuol dire che se tu ti accorgi nel giro di un anno o di 8 mesi che non riesci a pagarle quelle rate, hai tempo un anno per ripiazzare la casa. Non sei di quelli che dicono la casa non si tocca, però il protagonista di oggi non c'entra niente con questa storia. È un'altra storia, ragazzi. Tutti voi che siete all'ascolto, popolo della radio, popolo della zanzara. Il signor Cucinelli. Il sì, signor ho visto la convention alla convention, mi pare fosse del Monte dei Paschi. Sì, esatto, il Monte dove, dei Paschi, sì. Esatto, bravo. Ha a che fare con la questione delle banche, questa roba qui. Perché si parla di finanziamenti. Insomma, Cucinelli mettevano degli ostacoli per un finanziamento. Senti cosa dice: spettacolare. Spiego un po' il progetto. La banca mi dice: ma guardi, quando lei avrà il 25% di patrimonio netto rispetto al suo fatturato, noi potremmo finanziarla. Bravo. Allora io dico alla segretaria: traduci pari pari, siccome era una svizzera, traduceva sicuro. E io gli ho detto: è facile scopare col cazzo duro, scopa con il cazzo moscio. Non ho capito bene chi sono gli attori di questa vicenda, però. Cioè, lui vuole dire alle banche: è facile fare, no? Cioè, è facile prestare i soldi quando c'è l'impresa. Quando c'è. Sì, quando c'è la certezza, tu la dici. Certezza. Quando c'è la certezza. Cioè, per cui chi è invece che avrebbe. La banca deve rischiare e scommettere su un'idea. Chi è che avrebbe il cazzo duro? La banca, dici? Cioè, o l'imprenditore? No, la banca, la banca, perché lui in realtà è quello che va a chiedere i soldi, no? Alla fine, comunque, caro Parenzo, che tu lo voglia o no, tutti quanti rientrano e parlano con metafore sessuali. Non c'è niente da fare. Da Brunello Cucinelli, cioè dagli imprenditori, a tutti scappa prima o poi, perché ce l'abbiamo dentro di noi, no? È una cosa abbastanza naturale. Dunque, tutto quello che noi facciamo quotidianamente, che è condito ogni tanto, non sempre, da riferimenti sessuali, eccetera, eccetera, in particolare io, beh, amico mio, ha una sua, come dire, è la fotografia di quello che avviene nella realtà. Sì, diciamo, è la fotografia di quello che avviene nella realtà. Ma ti faccio un altro esempio, te lo faccio subito un altro esempio. Veloce, veloce. Si parlava oggi durante la bellissima trasmissione che si chiama Tagadà, bellissima perché ogni tanto vado ospite lì solo per questo. Sì. No, beh, ottimo. Si parlava di prostituzione. E c'era una signora che si chiama Terragni, credo. Una giornalista un po' femminista, diciamo, molto molto femminista. No, è una scrittrice. Vabbè, scrittrice, quello che è. Senti cosa dice a proposito degli uomini che cosa chiedono alle prostitute. Cioè, orario di pomeriggio, stiamo parlando. Di pomeriggio, un orario molto più, come dire, da bambini o da ragazzi rispetto alla zanzara. Cioè, non molto più protetto. La 7, televisione, bambini. Senti la Terragni. Gli uomini a queste signore vanno a chiedere cose che le mogli non chiederebbero mai. Pratiche, scusi, io non posso parlarne a quest'ora del pomeriggio. No, diciamo il dettaglio. Devo lo dire diciamo anche perché dopo sarà il nostro ospite tra pochi minuti. Se che la prostituzione oggi è una escort. Cioè la coprofagia, ma adesso veramente ragazzi, uomini che chiedono alle prostitute la coprofagia, adesso veramente succederà sicuramente, ci sarà un settore, no, della prostituzione che è dedita a questa roba qua, ma dove vive questa signora? Cioè dove, non è che per dipingere la prostituzione, per combattere l'idea della prostituzione, uno deve fare riferimento agli esempi più estremi, no? Cioè, ma no, per dire che questi miserabili vanno, ma cosa lì vuol dire? Ma non è vero, succede questo. Anche questo, certamente, questo, ma non vuol dire nulla. Mi sembra abbia ragione. Comunque, la notizia del giorno è un'altra, come tu qual sai. È? Qual è? E bisogna fargli gli auguri. Il nome di tuo figlio, qual è? No, ecco, il nome del figlio si saprà, ti do due chicche, ti do. Primo, il nome del figlio si saprà tra 8 giorni, quando verrà fatta la circoncisione. Tra otto giorni la circoncisione verrà fatta. Io so qual è il nome, perché anzi, ti dico di più, io oggi l'ho registrato, col nome, non essendo col noi nome. Sposati. Vabbè, non io lo so, io lo so per vie traverse, però non lo posso dire, dai. No, ma è impossibile che tu lo sappia. Però ti dico che ci sono 4 persone che lo sanno, che sono 4 i funzionari dell'ospedale che mi hanno fatto firmare. Hai fatto una cosa di privacy, che ha fatto un titolo di privacy. No, nessuna privacy, figuriamoci. Quattro funzionari e donne dell'ospedale dove la mia compagna ha partorito sanno il nome del bambino. Vabbè, ma non è il nome, non mi è hanno nome riconosciuto del Pitt, dalla voce per la radio, eccetera. Mi hanno fatto parlare con i loro rispettivi fidanzati. Ah, ti prego, la prego, vi fa. E abbiamo passato 10 minuti a parlare con i rispettivi fidanzati. E ho fatto firmare un patto di segretezza a queste segretarie. Ma non ci posso credere, dai. Le quali ho detto: guardate, se però i vostri mariti, mogli, cioè, mariti, cioè, chiamano alla radio, perché hanno chiamato anche spesso e rivelano il nome, io so che i leaks sono usciti da queste quattro mura. Ma che cazzo è stato? Ma è un nome di un bambino. Come da tradizione ebraica, il nome verrà rivelato quando viene fatta la circoncisione. Rivelato. Quando verrà fatta la circoncisione, verrà reso pubblico. Non si può dire. Verrà reso pubblico il nome. In più, in quell'occasione, avrai la possibilità di parlare con il chirurgo che farà la circoncisione, che è un medico che ascolta, può venire alla radio, è un medico che ascolta la zanzara, è un medico che ascolta la zanzara, che detesta il tuo modo di porre le domande in modo sessuale, sostiene che hai detto una serie di, lui non ha detto stronzate, ma a proposito di che? Rispetto alla circoncisione, no, io in questo caso è incazzato perché alcuni miserabili hanno messo in discussione l'Organizzazione Mondiale della Sanità su questa pratica, ti spiegherà nel dettaglio vantaggi della circoncisione. Questa è la prima notizia, questa è la prima notizia che ti posso. La seconda è che oggi è il compleanno di Achille Occhetto, compie 80 anni, dedicheremo a lui tutta la puntata. E chi se ne frega, uno, collegandoci con Emanuele Macaluso, sentendo tutti i grandi protagonisti della storia del partito comunista italiano. Chi se ne frega? Cioè, 80 anni di Occhetto, grazie Achille per aver trasformato il PC in Partito Democratico della Sinistra. Chi grazie se ne frega? Achille, ti ricordiamo tutti e quanti. Chi se ne frega? Chi il segretario se ne della svolta. Chi grazie, se ne frega? Grazie, se ne frega. Tu che sei comunista, te lo ricordi? A me non me ne frega ex niente. Massimo Gandolfini è con noi, buonasera. Buonasera Giuseppe. Dottor Gandolfini, come sta? Ci mancava, come sta? Gandolfini, benissimo. Ma abbastanza bene, grazie. Allora, come sei collegato? Ci diamo del tu, Massimo? Sì, volentieri, volentierissimo, non c'è problema. Allora, che c'hai? La viva voce, no? No, c'ho un cellulare. C'hai un cellulare. Allora, ti voglio chiedere subito una cosa. È vero che è in arrivo, Parenzo, qui è una notizia importante, è in arrivo il partito della famiglia. Amico mio, è vero o no che fate un partito insieme a diciamo il popolo del Family Day, insieme a Dadinolfi e altri, sì o no? No, allora due del comitato del Difendiamo i Nostri Figli, quello del Family Day, hanno pensato di costruire anche un soggetto politico, un soggetto partitico, che sono Adinolfi e D'Amato, ma che non ha legami con il comitato, se non legami lascia perdere i legami, ma si fa questo partito, tu fai sei della no, sei in corsa o no? No, io non sono in corsa e non sono fra quelli che pensano di fare un partito. Cioè sarebbe una minchiata, scusami se mi esprimo così, fare un partito dalla famiglia, diciamo la verità. Io penso che sia una minchiata, però... Io credo che non sia il caso di farlo e di mantenersi invece con un'attività di comitato come quello che abbiamo fatto da un anno. Allora, vedi Parenzo, però io probabilmente su molte cose la penso in maniera completamente all'opposto di Gandolfini, però su questa cosa sono d'accordo. Cioè c'è un barlume nella testa. Ci siete d'accordo con Gandolfini sul non fare il partito? Beh, ma certo, ma di che stava a parlare? Il partito della famiglia, ma che vuol dire? Non fermi posso tutti. Che essere d'accordo con voi, purtroppo. Fermi tutti, torniamo, perché adesso facciamo una bella battaglia con Gandolfini sulla vicenda Vendola, eccetera, eccetera. Traffico, il traffico. La zanzara. Allora, per chi non lo conoscesse, Massimo Gandolfini è quel signore che ha organizzato il Family Day. Noi l'abbiamo preso in giro per un'affermazione, poi abbiamo ovviamente affrontato tutti gli argomenti nei mesi passati, eccetera, eccetera. Per un'affermazione che Gandolfini ha fatto sul palco del Family Day a Roma qualche settimana fa, quando ha detto che il sesso non è per piacere, ma è per la procreazione. Allora, caro Gandolfini, io non posso credere che una persona come te, che insomma non è che è nata ieri, fai il medico, sei un affermato professionista, eccetera, non posso credere che qualcuno che pensa questa cosa, non ci posso credere, davvero. Tu davvero sei convinto che il sesso si fa solo per la procreazione? No. Allora, posso rettificare? Ma che rettificare? L'abbiamo sentito, il sesso non è piacere. No. Allora, voglio completare il concetto. Il sesso non è fatto soltanto per il piacere, come non è fatto soltanto per la procreazione. Il sesso è una cosa bellissima che richiede, che ha dentro di sé sia il piacere che la procreazione. Vabbè, ma ho capito, ma che c'entra? Tu hai detto il sesso non è piacere. Ah, non ho capito. Dunque, se uno lo fa solamente per piacere, se uno lo fa solamente per piacere, cioè quando si scopa, ecco. Insomma. Ecco, manca una componente importante perché il sesso venga fatto bene. Ci vuole il piacere, ma è ancora meglio, ancora più bello, sì, ma... è ancora più completo se si sa che da quel rapporto può anche nascere una nuova vita. Amico mio, ma se tutti quanti i rapporti sessuali dovessero essere concepiti così, avremmo un mondo sovrappopolato, cioè saremmo finiti, saremmo morti. Ma tu, Cruciani, sai bene che non è che le cose vadano esattamente così, non è che tutti i rapporti sono fecondi. No. Alcuni lo sono ed altri non ho lo capito, sono. Ma scusa, cosa vuol fare? Una legge speciale? Chi lo fa solo per piacere? Secondo te chi è? Cioè uno che commette un peccato. Beh, una persona dipende naturalmente a quale come dire, tradizione culturale lui si rifà. Se una persona è cattolica e fa il sesso soltanto fine a se stesso e per piacere, è chiaro che non sta seguendo la sua tradizione culturale, cioè, le cose nelle quali crede. Un cattolico tradisce la visione, naturalmente, soprattutto tradisce la dottrina della Chiesa cattolica su questi argomenti. Scusami, ma tu l'hai un preservativo, per esempio, l'hai mai usato? No, mai. Mai? Beh, avrà usato altri metodi, no? Come fanno i religiosi. Tu hai adottato cattolici. 7 figli, no? Ne hai fatto qualcuno in maniera, diciamo... Non abbiamo, io e mia moglie siamo una coppia sterile, quindi non abbiamo potuto mai concepire. E dunque, in teoria non hai mai fatto sesso, già da un certo momento in poi? No? No, perché questa non è una cosa che mi sono autoimposto o che mi sono costruito io. Questa è una cosa che mi sono trovato addosso dalla natura e per la quale ho pensato che, essendo due persone, come dire, sane e dal punto di vista sociale anche abbienti, potevamo dare la possibilità a dei bambini abbandonati di avere una famiglia. No, ma questo va benissimo, quindi... però tu adesso, in questo momento, fai sesso senza procreare, sapendo di non poter procreare, dunque non dovresti farlo. Certo. Dunque non dovresti farlo. No, perché non sono io a scegliere di farlo così, in maniera sterile, è la natura che mi ha messo nella condizione di essere io e mia moglie una coppia sterile. Da un suo punto di vista. Senti, non ho capito una cosa. Secondo te le cliniche che fanno l'utero in affitto andrebbero chiuse? Beh, l'utero in affitto io l'ho sempre definito, e anche stasera lo definisco, una pratica abominevole ed incivile. E dunque chi lo fa? Chi lo fa? Chi paga queste cliniche, come lo consideri? Cioè, Bendola, come lo consideri? Un criminale? No. Io non do mai giudizi sulle persone sulla linea del nostro santo padre Papa Francesco. Non do giudizi sulle persone. Io do giudizi sulla pratica. La pratica della fecondazione dell'utero in affitto è una pratica abominevole e incivile. È abominevole perché mette al mondo un figlio orfano. Vabbè, questo sì. E quindi non viene tutelato il diritto del bambino di avere orfano, un padre. Orfano, perché legalmente avrà sicuramente che siano coppie eterosessuali. Avrà due padri. Due padri o avrà due madri, non avrà la madre. Ci sono anche coppie etero, come sai. Avrà la certezza di qualcuno che se ne fa carico, di questo non c'è dubbio, perché è stato proprio ordinato, come dire, è stato proprio Ho capito, però tu, uno come Vendola, che paga 135.000 euro, come lo giudichi? Lascia perdere che sia Vendola, però ti faccio la domanda su Vendola, perché chiaramente... Giudico che è una persona che per un proprio desiderio e capriccio, avendo la possibilità economica di farlo, lo ha fatto ad ogni costo, non tenendo conto che c'è di mezzo una persona umana, un bambino, che ha diritto ad avere una mamma. Ma scusa un attimo, può tornare in Italia o andrebbe arrestato secondo te? Cioè chi fa questa pratica va arrestato? Questo è importante. Allora, innanzitutto bisogna vedere se in linea di principio di concetto io condivido l'idea del cosiddetto reato universale. E allora? Però è chiaro che fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Cioè saremo in grado di poter comporre un reato universale? Sì. No. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Tuo mondo ideale, uno che fa una cosa del genere e dunque viola una legge universale... probabilmente anche un diritto dell'uomo, eccetera eccetera, è uno che va messo in galera? No, la galera non risolve non ti piace. Questi temi qui. No, la galera non mi piace, ma perché non li risolve. Una persona così è arrivata a quella condizione perché c'è tutto un percorso culturale precedente che l'ho portato a fare una condizione di quel genere. Ma il diavolo esiste secondo te? C'entra il diavolo? Sì, sicuramente sì. Il diavolo esiste. Il diavolo. Dunque si può dire che chi fa questa pratica è magari c'è lo zampino del diavolo o no? Possiamo dire che potrebbe essere stato mal consigliato dal diavolo, perché il diavolo certamente esiste. Cioè, come fa a esistere il diavolo? Io non capisco. Cioè, il diavolo dove si manifesta, per esempio? Cioè, non... Beh, tutte le volte che noi vediamo il male nel mondo, dal male piccolo al male più grande, è il diavolo, è il diavolo. È certamente un'attività diabolica. Un'attività diabolica. Queste cliniche, le cliniche che ci sono in Ucraina, dove va un sacco di gente, un sacco cioè, secondo te andrebbero chiuse d'imperio, andrebbero bloccate, andrebbero sbarrate? La prima cosa che deve essere fatta, deve essere dichiarato gravissimo reato l'utero in affitto. Io sono a favore, quello che gli sta dietro. Ed è ovvio che se questo viene fatto, diventa a quel punto illegale e non ci dovrebbe essere nessuna struttura al mondo che lo fa. Senti, Sgarbi ha detto dal culo non nasce un bambino, rivolto a Vendola. Sei d'accordo? No, è una brutta... È una brutta affermazione, io non ho nel mio DNA queste affermazioni aggressive. Però sei d'accordo? No, non sono d'accordo, non si dicono queste cose. Non si dicono queste cose, perché... Meno male. Ma senti, rispetto alle persone va portato sempre. Sì, ho capito, ma se uno dice... Massimo, io capisco che uno, per carità, tu sei una persona, no, tra virgolette, cristiana, nel senso che, no, tollerante, quello che vuoi. Però se uno dice che questo qua è un reato, un crimine pazzesco, chi questo crimine fa? Per me è un criminale. Perché non avete il coraggio di dire questa roba qua? C'è chi ha avuto il coraggio di dire che quello è un criminale che va arrestato? Perché vanno stigmatizzati e colpiti profondamente i comportamenti. Le persone molte volte hanno dietro le spalle delle storie. Che c'è? Un diavolo? Magari il diavolo. Che potrebbe anche accadere. C'è Vendola che c'ha il diavolo dietro. Cruciani, ti faccio un esempio. Un omicidio è certamente un atto criminale da condannare sempre. Può darsi che la persona che compie l'omicidio in realtà abbia delle condizioni per le quali non era proprio fino in fondo determinato a fare quello che poi ha fatto. Bah. E allora il giudizio sulle persone non va mai fatto. Va bene, ciao, grazie, ciao. Allora ragazzi, qui abbiamo Roma invasa dai topi, due topi per ogni abitante, ne parliamo dopo, ciao. Parenzo, ma la cerimonia della circoncisione di tuo figlio, inviti anche Vinciullo. Io vorrei un'Europa in cui le persone non hanno paura di perdere la propria nazionalità o le ricchezze del loro paese. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Inizia la settimana della moda, il giallo è il colore di questa stagione, fresco, solare, mai banale. Nuovi abiti per... Ma di cosa stiamo parlando? La moda ti annoia? Allora, vestiti senza censure. Arrivano le t-shirt della trasmissione più dissacrante di Radio 24. L'imperdibile divisa che ogni militante dell'esercito della Zanzara deve possedere. Scopri come averle su lazanzara.radio24.it. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta La Zanzara. Giuseppe, ti ascolto sempre la notte in replica perché faccio il fornaio. Sto tornato adesso. Scottona, 7 etti. Carne argentina, perché io sono d'origine argentina, 4 etti e mezzo. Mi sono mangiato 1,1 kg di carne. Lo mangio tutti i giorni, ormai da 15 anni, e sto meglio di tutti, e scopo meglio di tutti, quindi state tranquillo, fra. Scialemmo proprio. Grande mangiata, grande colazione. Allora, questo qua c'aveva l'accento marchigiano esattamente uguale a quello di Giorgio Montanini, grandissimo. L'altra sera sono andato a teatro, caro Parenzo. Lunedì sera a sentire Montanini, tu saresti inorridito. No, mi diverte moltissimo. Inorridito. Assolutamente, beh, la comicità di Montanini diverte molto, bellissimo, è un grande. Allora, andiamo con un po' di roba, dai. Fabio Canino che dice che la Meloni è fascista e meno male E meno male che diventa mamma, così abbiamo evitato una fascista a Roma. Fabio Canino. Mai maternità fu più gradita, quella della Meloni, così l'abbiamo tolta, perché non ci mancherebbe che una fascista a comandare Roma, e poi veramente abbiamo fatto il toto. Allora, quattro coglioni, un gruppo di animalisti, dicono i giornali, scrivono i blog, i siti internet, ma io li chiamo un gruppo di coglioni, un gruppo di deficienti, un gruppo di decerebrati. A me non me ne frega niente di Cracco, non è che devo difendere Cracco, figuriamoci. Cioè non... Ah, il piccione. Allora, piccione. No, ma che piccione? Un gruppo di animalisti, cosiddetti animalisti, ma semplicemente degli imbecilli che forse vogliono fare pubblicità a qualche gruppo animalista, non lo so, hanno fatto un'irruzione ieri notte nel ristorante di Cracco a Milano, pronunciando questa frase. Hanno insultato il proprietario, non so se c'era Cracco, non c'era, comunque hanno insultato quelli che erano lì, dicendo: questo è un ristorante di merda e Carlo Cracco è un assassino perché cucina gli animali. Cioè, questi sono quattro coglioni, forse istigati dal nostro amico là, Lorenzo Croce, non so, non credo però. Chi è Croce? No, ah, quello là che abbiamo intervistato l'altra sera. Mamma mia. Un assassino perché cucina gli animali. Ma semplicemente perché durante la trasmissione tutto quanto è nato da questa roba qua del piccione, che è una roba pazzesca. Cioè, il piccione è buonissimo, non ci rompete i coglioni. Boh, io non l'ho mai mangiato e non è mi ispira. Buonissimo, però, è buonissimo. Ma non ti ispira perché? Perché è un piccione? Sì, sì, cioè, sì, forse perché è un piccione. Ah, com'è? Lui sì, non sì, sì. Ispira, no, no, il piccione. Solo filetto. No, il piccione non mi piace. Il piccione le non quaglie ti piace. Non mi piacciono del piccione. Non mi ti piace perché sono piccoline, li vedi su, no. Le vedi sugli alberi. No, no. Gli uccellini che no. Piacciono ai tuoi bambini, questi non no, li mangi. No, cioè, no, no, il pesciolino io lo mangio, dai, ad esempio. Non me ne frega. Non mi piace il piccione, ma penso che non sia. L'hai provato? L'hai provato il piccione? No, no? Mi come fa fai senso, a dirlo? Mi fa senso. Ma ti fa senso perché? Ma che ad esempio, invece, io mangio il cervello fritto. Ecco, questo lo mangio. Cervello fritto si fa anche nei ristoranti del ghetto a Roma. Bravo, esattamente. Impanato e fritto. Cervello fritto, io sai che solo lì lo mangio perché ho paura della mucca pazza, eccetera. Invece, siccome la carne è kasher, è molto controllata, sì. Lì lo mangio sempre. Tu sai che io, per esempio, ho sempre mangiato tutto. C'era una cosa. Non mi piace. No, c'era una cosa che non avevo mai mangiato in vita mia. Ed era il cervello, perché mi dava un po' fastidio. Ecco, ma il fegato non piace. Allora, una volta sono andato effettivamente, non mi ricordo dove, al Portico d'Ottavia. Non mi ricordo dove, in quale ristorante, ho mangiato. Forse sarà Baghetto, qualcun altro. Non no, so. No, comunque, più quello più sono. Avanti sulla sinistra. Dopo Baghetto. No, no, no. E ho mangiato per la prima volta il cervello, le cervella. Appunto, sì, esatto. Molto esatto. Buono, dolce, buono. Troppo dolce per me, troppo dolce. Un po' di limone sopra, pepe, ma è magnifico. Beh, però troppo dolce. Ecco, il piccione non mi piace. Ma non lo sai, non l'hai provato. Ma mi fa senso. Ma non sono delle cose che mi fanno senso. Quando uno mi dice mi fa senso il cervello, io lo posso capire. Vabbè. Però mica gli dico che è uno stronzo. Fammi sentire un attimo da dove nasce tutta questa follia contro il piccione e contro Cracco, eh? Bene, nome del piatto? Piccione a modo mio. Bollire il prezzemolo, ha insegnato i zingari a fare quello. Dov'è? Beh, controlliamo il piccione, vediamo se è cotto bene, perché prima cosa ovviamente c'è la cottura della carne. Perfetta. Quanti anni in cucina ci vuole per cucinare un piccione a questo livello di perfezione? Più che quanti anni, quanti piccioni ci vogliono? Credo che almeno 500 piccioni servano. Un uccello al giorno ci sta. Un uccello al giorno toglie il medico di torno. Questo è Cracco, un uccello al giorno toglie il medico di torno. Direi di staccare questa frasetta e farla diventare un po' un piccolo tormentone. Ora io dico una cosa, dove sono finiti gli animalisti per quello che riguarda i topi? Perché questa cosa mi fa incazzare. Siccome si prospetta a Roma una strage di topi nei prossimi mesi, no? Perché pare che ci siano due topi per ogni abitante. È un problema. Addirittura il sangue dei topi sulla scrivania di un funzionario del Colosseo a Roma. Basterebbe sguinzagliare dei gatti, sai? Ma non lo so, cioè, non credo. Non occorre, allora, sì, la natura alle volte. Il fatto più è che Roma è una città zozza, è una città sporca. Gatti. Sguinzagliare gatti ovunque. Fosse bellissimo. Così semplice, non è quello il punto. Beh, sì. Siccome Roma è una città zozza, come dicono gli esperti, è evidente che i topi proliferano. Allora io dico, dove sono finiti però gli animalisti? Io vorrei, siccome si prospetta una sorta di disinfestazione totale, perché non proteggono anche i topi? Cioè, perché gli animalisti veri, invece di andare a rompere i coglioni a Cracco, non difendono i topi a Roma? Cioè, dovrebbero essere a favore del fatto che i topi si, no, restino lì a dominare la città. In fin dei conti, che differenza c'è tra un topo e una mucca? Tra un topo e un coniglio? No, ma è così. Cioè, Cosa hanno di diversi i topi dai fagiani, dai piccioni, dai conigli, dagli agnellini? Perché? Perché semplicemente perché sono un po' più, no, più ostili? Dovreste difendere tutti, ipocriti, difendete tutti, anche i topi. A proposito di Vendola, caro Parenzo, ti leggo quello che ha scritto Gianluca Pini della Lega. Sì. Questione del figlio comprato dal compagno Svendola. Ricapitoliamo, questo povero bambino poteva avere il passaporto. Svendola l'ha chiamata. Svendola. Questo povero bambino poteva avere il passaporto americano, vivere in California, California non Puglia, cazzo, con sua madre, crescere guardando il tramonto sul Pacifico, surfare, magari andare a studiare in qualche università di livello e diventare qualcuno. Invece sarà destinato ad avere un passaporto italiano, crescere a orecchiette cime di rapa e vivere con due busoni anziani a molfetta. Se poi a 20 anni fa una strage di sta famiglia arcobaleno, cioè scrive fa strage di una italiano. Famiglia arcobaleno. Scrive anche bene o sei della Lega in italiano? Immagino si troverà qualche giudice che gli darà tutta una serie di attenuanti e applichi la legittima difesa. Cioè, in poche righe ha detto che era meglio se rimaneva e viveva in California. Deve vivere con due busoni anziani a molfetta. E poi alla fine, siccome c'ha tutte queste disgrazie, a 20 anni dovrebbe fare una strage della famiglia arcobaleno. E un giudice gli dà l'attenuante perché siamo in Italia. Massimiliano da Milano, vai Massimiliano. Massimiliano. Sì, eccomi, pronto. Dimmi, dimmi. Sì, due informazioni. La prima è questa, su questa performance che lei si appresta a fare qualora il crowdfunding avrà... Qual è la performance? Non mi risulta nulla. Qual è la performance? Ma risulta, scusa, che lei abbia deciso di donare il suo... posteriore per la, non so se no, per la storia o perché cosa, ragazzi, prove. Allora questa cosa sta degenerando un po', la cosa però, comunque dimmi, dai, finisci completa, ma... mi piacerebbe capire, visto che lei è padre come me, sì, io ho qualche figlio in più ma non è un problema, come lo spiega a sua figlia di 9 anni 10 anni a 10 domanda. Anni non mi tra... non mi sembra il caso di spiegare a mia figlia che cosa faccio alla radio, se vuole la radio, un personaggio pubblico è un casino, ma saranno cazzi miei come lo spiega mia figlia o no? No, e io le ho chiesto un consiglio. Ma che te ne frega a te di come lo spiega mia figlia? Sì, se mai lo dovessi, se lo dovessi spiegare a mia figlia, lo dirò. Cioè, non c'è niente da spiegare. Mia figlia a 10 anni non sente la radio, a 14 anni, quando la sentirà la radio, semmai ci sarà ancora questo qualcuno programma. Qualcuno glielo racconterà e sarà peggio. Ma qualcuno glielo racconterà cosa? Mi ha chiamato stamattina mia sorella. Ma che è questa storia? Che cos'è questa cosa? Possibile che leggo che vuoi dare via il culo per 200.000 euro? Eh beh, no, che ma figura io... fa la famiglia, effettivamente. Ma non fa nessuna figura, sei tu che hai tutte queste fissazioni, non fa nessuna figura. Ma sei tu che hai queste fissazioni? Ma anche i miei mi hanno chiesto, ma come mai Crucevo fa sta cosa? Di guarda, gli piace così, dice, ma come, non aveva già abbastanza soldi? Beh sì, perché giustamente le persone si interrogano poi quando dici una cosa. Beh, i miei poi sono molto laici, vabbè, se gli piace così, ma dice un tuo amico, ma dico sì, però no, per 200.000 allora, euro. Però comunque prenditi la responsabilità di quel che dici, va bene, siamo ma tutti allora, qua. Scusa, mi ha chiamato mia sorella. Euro. Ma ti credo che è allarmata? Una famiglia per bene, borghese, una famiglia normale. Per bene, borghese, ma una parola certo, che è una frase una che odio. Normale, io non ho nessuna famiglia per bene, borghese. Ci sono le persone, dici, non la famiglia per bene, no, borghese. Beh, esistono bene, esistono le persone, pensa non la famiglia. Mi fa impazzire questa cosa. Ma come è andata al lavoro stamattina tua ma sorella? Ma non è andata in nessun modo. E se fosse andata al lavoro... Ma tuo fratello, ma cosa dice? Ma veramente vuol fare sta roba? Quella poverina si vergognava. Il problema è loro, non è mio. Il problema è sempre loro, non è mio. Non esiste la famiglia borghese per bene. Esistono le persone. La famiglia borghese è per bene. Ce l'hai tu nella tua testa pagata. Gli affetti da tutelare, ma le persone che ti stanno vicino, esistono che magari le persone. Di quello che dici. Le persone, appunto, come le chiami? Le persone. Sì, le persone. Mi ha chiamato mia sorella per tornare alla questione senza litigare. Mi ha chiamato, ma non allarmata. Mi ha chiesto com'è possibile questa storia, che cos'è? Voleva spiegazioni. Le ho spiegato quello che è la realtà, che non ho fatto un'asta per farmi inculare per 200.000 euro. È un'altra cosa legata alla questione. Sta nascendo anche un'app adesso, ad esempio, perché un mio amico che si occupa di start-up sta creando un'app apposta per farsi una raccolta di fondi. La seconda questione è questa, però. Siccome prima il suo sodale ha detto che vorrebbe vedere, certo, lei deve chiedere almeno il doppio. Ma non che può no, vedere. Voglio le prove, lei non voglio assistere no, a quella no, roba no, là. No, a me fa senso, no. Quindi. Ma ti fa senso? Beh, direi. Sì, ah, ti fa senso? Mi fa senso, sì. Cioè, la sodomia ti fa senso? No, la sodomia si diverte. Non mi metto a guardarla, ecco. Ah, non guardi nemmeno la sodomia? No, ma... no, non mi metto a guardarla. Vincenzo da Forlì, dai, Vincenzo da Forlì. Salve, buonasera. Dimmi. Che poi di Forlì, ma l'accento mi tradisce, quindi sono proprio pugliese. Vai, Vincenzo, dimmi. Proprio originale. Dimmi. No, mi collego all'articolo che aveva scritto questo leghista dicendo che il figlio di Vendola era meglio che fosse nato sul Pacifico, che fosse rimasto, voglio dire, in America. Sì, ma il contratto non prevedeva questo, evidentemente, non prevede questo. C'è stato un contratto tra i signori Vendola e il signor Testa e questa clinica, che prevede che questo signore non possa rimanere in California. Capisco poi la provocazione, naturalmente, era meglio che abitare in California piuttosto che in Puglia. Però non lo so, in realtà io tra California e Puglia non so cosa, magari preferisco la Puglia. Non lo so, poi i leghisti milanesi e tutti questi nord che poi alla fine in vacanza vanno tutti a Gallipoli, a Santa Maria di Leuca, a Otranto, eccetera, eccetera. Ma indipendentemente da questo, volevo esprimere proprio questo concetto riguardo all'utero in affitto. Vendola avrebbe potuto benissimo adottare un bambino. Cioè, sì, ma non era possibile farlo, non è possibile farlo, ragazzi. E questo è quello che manca. Vabbè, ma ho capito, adesso non iniziamo il dibattito. Io odio i dibattiti, non li lascio ad altre persone i dibattiti. Che cosa vuoi dire? Spiegami che cosa vuoi dire. Quello che voglio dire è, e in questo mi trovo in disaccordo con te, lo so benissimo, perché seguo da tantissima trasmissione, eccetera, e ne ho le palle piene, mi permetto di dire. Di che cosa? Di tutte queste discussioni su utero in affitto, non utero in affitto. Vabbè, d'accordo, allora che hai chiamato a fare? Che le donne si possano vendere di tutto di più è storia antica, va bene? Libero di farlo, così come tutti. Ma sai che non ho capito che cosa vuoi dire. Spiegami che cosa vuoi dire, non lo sai nemmeno tu. No, non si vende, non si regala, ma non per la mamma. Ma non è venduto, chi è che vende il bambino? È un contratto in cui una persona porta per 9 mesi un bambino in pancia che viene poi dato. Sì, poi lo vende, certo, ma tecnicamente ha ragione questo signore. No, vabbè, è una vendita di un bambino. No, è una vendita, cos'è? Legge naturale. Sì, ma legge naturale. Si chiama vendita del bambino. A nessuna legge morale, a nessuna legge. Vabbè. Come dire, sei contrario, sei parto, tutta sta pippardella, tutta sta pippardella. I genitori busoni, sì. Perché c'hai i genitori busoni? Andrebbe a sputare in faccia, se è vero che vive in questa ma società. Ma chi te l'ha detto? Ma non è vero, ma perché vi mettete nella testa di un bambino? Che ne sapete? Si può tradurre una volta che vive accanto a Vendola, ma dico Vendola come a chiunque altro. Va a sputare in faccia perché non ha la madre. Sì, no, due sono le cose. Vabbè, Vincenzo, sei due, ma questo non è il convegno, aspetta. Cruciani, convertiti al veganesimo, faresti l'unica buona azione della tua vita. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta La Zanzara. Se per caso trovi qualcuno che ti dà 200.000 euro, per favore, fallo in una saletta VIP room con 10 posti a sedere. Voglio esserci. Anche se il biglietto costasse 1.000 euro, voglio esserci! Viva la Zanzara! Va bene, Cruciani, per 200.000 euro ti farai sodomizzare. Ma il bidet è compreso nel prezzo? Questa è buona, eh? Allora, per risolvere il problema dei topi a Roma, forse si potrebbe seguire l'indicazione della nota vegana, credo anche animalista, perché poi le due cose vanno insieme, la nostra amica Paola Maugeri. Ti ricordi che cosa propose durante un porta a porta di qualche mese fa? Beh, sentite, l'indicazione animalista per cacciare i topi da Roma o comunque per limitare la presenza dei roditori a Roma, animalisti dove siete, proteggete i topi, lasciate Roma in mano ai topi invece di stare dietro a Cracco. Che considerazione ha lei di un topo o di una zanzara? Sono esseri senzienti anche quelli? Per me, se lei si trova un topo in casa, cosa fa con questo topo? Lo invito ad uscire. Ah, e se c'è un'infestazione di topi? Non mi è mai capitato, però inviterò tutta la colonia di topi a uscire da casa mia. Perché evidentemente abitando in città non si trova in situazioni che... Probabilmente, però voglio dire... E le zanzare? Le zanzare non le ammazzo. Beh, siamo veramente a top qui. Qui siamo a invitare la colonia di topi ad uscire. Allora, io credo che è inutile che ci stiamo qui ad arrovellare, no, caro Parenzo? Ci sono un sacco di esempi, pifferai. Io credo che il commissario Tronca potrebbe tranquillamente interpellare la signora Maugeri e altri vegani. E magari, sì, loro hanno, magari loro hanno delle idee, no? per portare, sì, via i topi da Roma, magari, sì, con qualche musica, con qualche musica, così sentiamo musica, certo, la processione di topi che se ne va. E poi soprattutto, una volta usciti da là, dove vanno? Andranno magari in qualche altra città, magari chiamiamo Bocelli, no? Ragazzi, Bocelli, ma come cazzo si fa? Ma come cazzo si fa? Ma perché uno nel cervello cioè un minimo, no? Io posso capire l'alimentazione, ma che diamine, tutto quello che vuoi, l'alimentazione, no, ma io quello lo posso capire, ognuno mangia come vuole, ognuno può anche pensare che noi siamo degli assassini perché continuiamo a mangiare la carne, ma mi va bene tutto, ma non puoi dire che vuoi mandare via i topi da una città invitandoli ad uscire o da casa tua. Non lo puoi dire, amica mia, perché non si può fare, perché è impossibile, perché non siamo nei film, non è un cinema, non è una sceneggiatura, è la realtà, bisogna ammazzarli. Ah, non ce la faccio, dai. Giorgio da Napoli, 800240024, però aspetta Giorgio, scusami, sempre 393-71-71-701 per i WhatsApp. C'è la questione di Renzi, che oggi ha parlato del ponte sullo stretto. Ancora col senti, ponte. Senti, sì, dice che stavolta... Quello che volevi fare tu. Beh sì, ero d'accordo, devo dire la verità. Ero d'accordo. Quello che volevi fare. No, ero d'accordo, ho fatto anche un libro, che in realtà è un libro dove si criticavano i politici che parlavano a bambera del ponte sullo stretto. I politici del no. Però nel tempo, se non si è fatto fino adesso, non si farà mai. È inutile raccontare cazzate, dai, su. Cioè, io ero d'accordo e sono anche d'accordo in generale sulla costruzione dei ponti, eccetera, eccetera. Però ormai è finita, ragazzi, su, è inutile stare qui. E non si capisce perché Renzi, su una cosa che non è molto popolare, cioè come il ponte, ci torni su. Sicuramente il ponte verrà fatto. Il quando, quindi basta con questo derby, ah sì, no. Il ponte certo che ci sarà, prima o poi. L'importante è che prima, io mi sono molto pratico, prima portiamo a casa i risultati di opere incompiute e a quel punto, giustamente... Salvini contro Mattarella, che non so dove è andato dai migranti. Dove cazzo è andato Mattarella? In Tunisia? Tu che cazzo ne sai? Tu hai pensato ai ragazzini oggi, dai. Leggevo l'ultima agenzia su Mattarella, io poi mi incazzo come un bufalo, che è in visita a questo Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti, quando ci sono 1 milione di bimbi sotto la soglia di povertà assoluta in Italia. Quindi che cazzo ci va a fare il presidente Mattarella, con tutto rispetto per la sua agenda, alla promozione delle popolazioni migranti, quando ci sono 1 milione di minori in Italia che vivono, secondo i dati Istat, in condizioni di povertà assoluta. Vada dove vuole, si ricordi che è il presidente della Repubblica. Allora, questa era una cosa un po' alla Borghezio, no? Ma cosa cioè, c'entra? Perché cosa cazzo ci va a fare a questo convegno, credo, sui migranti, eccetera. Ma ti eccetera. Rendi conto, ma che... Dice, ho detto però con grande rispetto, detto con grande rispetto, che cazzo ci va a fare? Una cosa alla Borghezio. Come se una roba, sì, ma come se una cosa escludesse l'altra, è un puro demagogo, proprio populista. Giorgio da Napoli, Giorgio. Aizzare i Doberman della radio. Ma che c'entra la radio? Ha detto alla no, camera, l'ha detto, che cazzo c'entra? Appunto i suoi, come si dice, i suoi fedelissimi. Coglionito, cioè, Giorgio no, da Napoli. No, i suoi Doberman della radio, quegli sgherri che telefonano alla Radio Padania, parla quel popolo là. Giorgio da Napoli, lì. Vai. Allora, buonasera. Allora, immaginate che io domani voglio mettere o in internet o su un giornale un annuncio che io vendo un bambino neonato, nato sano, capelli biondini, diciamo, occhi verdi. Io voglio capire che mi succede a me dal punto di vista della legge italiana. Giorgio, cosa vuoi che succeda secondo te? Se tu metti un annuncio per vendere un bambino, vai in galera, cioè ti prendono e vai in giustamente in galera. Vado certo. In galera, sì. Certo, vabbè, vai in galera. Non lo faccio in Italia, vado in America. Ma vai in galera ovunque, non si possono vendere i bambini. Di che parli? Di cosa stai parlando? Perché no? Ah, ma la clinica, allora se una rispettabile clinica californiana lo può fare, allora io non lo posso fare. Però Giorgio, scusami, adesso va bene tutto, anche la provocazione, no? Una clinica californiana, una clinica ucraina eccetera vende un bambino, cioè fa una trattativa si vende un bambino, vende un bambino. Non è la stessa cosa di mettere al mondo un figlio e poi successivamente venderlo, non è la stessa cosa. No, non è perché spiegami perché non è la stessa cosa. Ma non c'è differenza, no, ma non devi dire non c'è differenza, Parenzo dice che non c'è differenza, è come un sofficino. Ma non dire cazzate, dai, ma ragazzi, non dite minchiate. Fare un figlio in una clinica per l'utero in affitto, però non è fare un figlio, è fabbricarlo come un sofficino. Dici come lo vuoi, con le ricotta e spinaci, con mozzarella e pomodoro, con gli occhi verdi, con le cose, come lo vuoi. È un sofficino. Cioè, fare un figlio in una clinica specializzata con l'utero in affitto è la stessa cosa di mettere un annuncio sul giornale e vendere il proprio figlio. Molto, ma ragazzi, ma di che cazzo state parlando? È molto simile, ormai, è molto simile. Giorgio, vedi, hai trovato un altro che ti dà ragione, per carità. No, è molto simile. Non siete soli, evidentemente. Non siete soli. Allora, e comunque posso dire un'altra cosa? Dimmi Giorgio, dimmi. Così, velocemente. Comunque secondo me tu e Parenzo state insieme. Questo, guarda, questo ti posso assicurare che non è così. Cioè, ti posso dare questa certezza. Forse non state insieme, però ogni tanto... Perché dovremmo stare insieme? Ma no, fate del bel sesso orale fra di voi, ma secondo me questa, ve lo fate. Perché questa fantasia? È la tua fantasia di notte questa. Tu ci hai pensato di notte, ti sei anche masturbato forse. Allora mi sbaglio. Però ma no, ma forse è una tua fantasia erotica. È una tua fantasia erotica, la mia, ti assicuro che non... No, no. Che per me è la tua fantasia erotica, sono quasi certo. Guarda. Fiorenzo da Verona, vai. Fiorenzo, dimmi. Ciao, Fiorenzo, ascolta, volevo dirti due cose. Dimmi, Fiorenzo. Una sui nazi animalisti. Nazi vegani, io domani. Nazi, però, vegano, ma non va bene anche comunque, nazi animalisti. Comunque, sì. Radici naziste. Il misterioso ancora dio del male Hitler odiava la caccia. Il suo grande sacerdote, Himmler, che era peggio di Hitler, diceva della caccia delitto a sangue freddo. Sì. Definiva Göring un maledetto segugio perché uccideva tutti gli animali. E poi sappiamo cosa hanno fatto. Mi sembra che il tipo di ragionare sia preciso di sì, questi. Sì, poi c'è anche la leggenda di Hitler vegetariano che poi non è mai stata confermata in realtà. Ma no, ma mangiava carne. Comunque... Questo era per ricordare a me. Senti una cosa. Allora, a me piace la figa. Sì, e vabbè, d'accordo, grazie di averci ricordato fammi questa. Fammi ragionare un attimo. Ma perché tu mi hai fatto scombussolare il cervello. Allora, a me piace, mi è sempre piaciuta. Io sono un cultore del cunnilingus. E vabbè, d'accordo, anche questo abbiamo capito. Interessa anche questo. Molto però, per questo. No, grazie. No, aspetta un attimo. Aspetta. Ma dipende, avanti, cioè, se c'è qualcos'altro di sostanzioso, sì, se mi devi dire a me piace questo, chi se ne frega. Sì, esatto. Ah, io adoro i gay perché liberano più figa. Vabbè, d'accordo, però anche questo è una cosa già sentita. Una cosa però già sentita. Per 200.000 euro io lo do via una settimana. Cioè, in che senso? Ah, per una settimana di nel seguito. Senso, lei ha familiari? No, lui dice per 200.000 euro. Ma a famiglia o è solo al mondo lei? Dove io il culo per una settimana. Beh, questa è una notizia importante, vedrà battute no, però, immediatamente. Però, però è importante. Mi fa pensare una cosa. Dimmi. Ma lei ha famiglia? No. Ecco, questo solo. Si capisce il senso della sua esternazione, diciamo. Non ha famiglia, bene. È solo al mondo, evidentemente. Parenzo. Sai qual è lei tutto? È solo al mondo, giusto? Aspetta un attimo. Vabbè, ma saranno affari suoi, ma non è che se uno è solo al mondo è un derelitto, eh? Cioè... No, però si permette, dice queste cose, quindi non ha nessuno che poi domani lo chiama. Cioè, dice... se uno dice quello che pensa, non è che necessariamente deve rendere conto a qualcuno. Cioè... Dirlo, può far fare una figura barbina ai suoi cari. Mi sembra di capire, e non l'ho mai accettato, che sono i soldi che mancano, i froci ci sono. Su questo non c'è dubbio, anche se ti devo dire che... considerando culatone anch'io, è quello che mi fa... Comunque la cosa interessante è che dicevi che per una settimana tu per 200.000 euro per una settimana di seguito. Ciao Fiorenzo, ciao. Cambiate spacciatore a Parenzo. La Zanzara. Allora, senti questa. Ho appena preso a badilate un ratto che tentava di entrare in casa. Poi il mio cane l'ha finito. Meravigliosa sensazione. Adesso, meravigliosa sensazione, magari. Non lo so, però, capito? Così si ammazzano i topi. Cioè, questa è la strada maestra. La strada maestra. Così si eliminano i topi. Non il pifferaio magico. Allora, mi aveva promesso che più o meno che ore sono? 19.47, sì, ci dovremmo essere. Dovrebbe essere all'aeroporto di Dubai, caro Parenzo. Signor Briatore, a Dubai. Uno dei trampiani d'Italia, uno dei grandi tifosi di Donald Trump in Italia, così. E cosa fa a Dubai? Ma lui c'ha affari in tutto il mondo. E devo capire. Ho stato anch'io a Dubai qualche anno fa, essere... molto bello. Ragazzi, ci siamo? Chiamatelo, dai, chiamatelo. Flavio? Sì. Ciao, sono Cruciani, come stai? Oh, dottor Cruciani, bene, tu? Bene, non c'è male. Senti, Flavio, cosa ti piace di Trump? Cosa mi piace di Trump? Mi piace lui, mi piace la persona. Cioè, vorresti che diventasse presidente? No, io dico che aveva delle buone possibilità. All'inizio penso che Clinton sognasse di avere come antagonista Donald, adesso credo che il sogno si trasforma un attimo in incubo, perché... Avendo un successo al di fuori di ogni aspettativa. Vabbè, insomma, fai il tifo per lui allora. Faccio tifo per lui. Ma secondo te ha detto un sacco di cose durante, sta dicendo un sacco di cose, il muro al Messico. Ma d'altronde, sai, un po' di populismo ci vuole. I nostri politici, quando dicevano che davano 1 milione di posti di lavoro, poi alla fine davano niente. Per cui credo che lì è parte del gioco, no? Poi non credo che tiri sui muri con il Messico. Quelli che dicono è un fascista, è uno pericoloso, la frase di Mussolini, tutte cazzate? Pericoloso non credo, no? È un manager, metterà la gente giusta al posto giusto, per cui è un po' il sogno americano lui, no? Perché uno si identifica in Donald Trump, molto più difficile identificarti in Hillary Clinton. In Italia chi assomiglia di più? Può somigliare sicuramente a Berlusconi, perché c'ha molto carisma, una personalità molto forte, è molto alla mano, è uno che poi lui è un grande promotore, no? Un grande carisma e un grande public relation. Senti, dagli un consiglio per sto parrucchino, che dici? Tu pensa che l'altro giorno gli ho mandato il filmatino che c'era tra lui e Mussolini, non so se era Repubblica o il Fatto, avevano questo filmato e lui si è messo a ridere. Oltretutto la frase che ha detto è una frase normale, no? Ma la classe media americana, medio-bassa, ha trovato il suo lancillotto e vedrai che prenderà una valangata di voti, anche una percentuale molto alta rispetto alle ultime elezioni. Ma tu che hai fatto? Sei dimagrito? Sei riconoscibile? Io ho visto quella foto là, qualcuno ha detto che sembri Califano. Che hai fatto? Sì, no, i ritocchini? Comunque, no, io ho fatto una dieta molto, molto, molto severa, ho perso tanti chili. Quanti? Quanti ne hai persi? 15, 16, quasi 17 oggi. Ma i ritocchini li hai fatti? Hai fatto qualche ritocchino, no? No. Vabbè, non c'è niente di male, mica è un crimine, eh? No, assolutamente, io no, non l'ho fatto. Sei solo dimagrito di 16 kg? Sì, ma vedi, quando mi vedrai di persona vedi che sono sempre io. Senti, una cosa, ma Renzi, quanto ti ha deluso Renzi? No, non mi ha deluso, non è che mi ha deluso Renzi, ma Renzi prima di tutto è un ottimista, no? Per cui, tu ti ricordi quando arrivava Monti in televisione, no? Sì. Vedevamo molti, ci toccavamo perché era una roba, ogni volta c'era delle tragedie. Effettivamente era un po' funereo, insomma. Sì, sembrava che era il funerale, il funeral home. Quando lo vedevi dovevi cambiare canale perché erano delle disgrazie e ti toccavi, no? Sì. Almeno Matteo sicuramente sta facendo perché in effetti cioè quanto gli dai dopo due anni, adesso sono 2 anni di governo, qualche voto gli dai? Ma è un 6 glielo do a Matteo, un 6 anche per il suo ottimismo e per la voglia di fare, Senti una cosa, ma invece Berlusconi hai visto che non riesce a trovare manco un candidato a Roma, cioè ormai è finito o no? No, ma mi sembra che ne hanno trovati anche troppi a Roma. Sì, appunto. Poi Roma, diciamo, è ingovernabile, no? No, ma Roma è Roma, no? Manco tu riusciresti a governarla. No, ma non ci terrei neanche, perché tu considera che nella mia vita penso di essere stato a Roma 10 volte. Solo 10 volte? Solo 10 volte. E perché? Così. Non ti piace? No, non ho avuto opportunità, non c'ho affari, non c'ho niente, per cui non mi va di fare il turista a Roma. Vabbè, è il caos, diciamo la verità, cioè tu come ti immagino un caos? No, mi immagino una città con i romani. Cioè? Quello che è Roma. Roma, il dramma è che tutto è dal traffico, dal modo di presentarsi. Sì. E oggi leggevo su un giornale italiano che c'è un topo ogni... Sì, i topi, ogni, sì, i topi. Tre topi ogni abitante. No? Sì. Dici i romani sono ingovernabili, dici, da quel punto di vista? Cioè, sono... Ma io credo che è tutto un po' ingovernabile. Credo che il potere che ha un sindaco non credo che possa cambiare le cose. Senti, un'ultima cosa, poi ti lascio. Si parla molto di questa storia di Vendola, dell'utero in affitto. Io personalmente sono favorevole all'utero in affitto, tu? Che sia una roba così normale, non ci credo, perché per me la famiglia fino a qualche anno fa era un uomo e una donna e facevano un bambino. Adesso abbiamo i gay che possono avere figli, li possono adottare. Ma io credo che bisogna pensare al bambino, se loro sono contenti, il bambino è contento. Io credo che alla fine tutte queste robe qui... Io ho un figlio, no? Sì. Mi ha cambiato la vita. Io spero che questo figlio cambi anche la vita di chi Vendola. Cioè, giusto, cioè possono crescere tranquillamente in una famiglia omosessuale un bambino? Ma io credo di sì, io credo che... Io conosco amici miei che hanno bambini, o un bambino... Sì. 4 coppie, zero problemi, assolutamente. Ma il mondo è cambiato, l'avessi fatto 30 anni fa sarebbe successo. Anche Briatore è cambiato. Ma guarda che io credo nel 98-99 a New York ho visto un ristorante, 2 uomini che si baciavano, mi è venuto un colpo, mi è venuto un coccolone. Adesso non... di mano nella mano va benissimo. Manco ci fai caso. ma non ci fai più caso, ormai queste cose qui non le puoi più fermare, per cui, insomma, forza Tobia. Chi è Tobia? È il nome del figlio di Vendola. No, ma io gli faccio tanti auguri, perché in effetti sarà un uomo felice. Ciao Flavio, ciao. Un abbraccio, ciao. Bene, ciao, un abbraccio, ciao. Signor Briatore. Dai, è tutta una bordata a Berlusconi, perché ha detto a un certo punto, non so, sì, ma lo diceva non sui temi, lo diceva come carattere. Ma ha detto a un certo punto: beh, un po' di populismo ci vuole. In Italia c'è gente pure che ha promesso 1 milione di posti di lavoro e poi non è successo nulla. E chi è quello che ha promesso 1 milione Berlusconi, di posti di lavoro? Certo, Luigi, provincia di Modena, dai. Ciao Cruciani, dimmi. Sei troppo figo. Figo e forte, e 200.000 euro te li do volentieri. Ma non ce li hai, questo è il punto. Il coraggio, tira fuori 200.000 euro contanti e poi vediamo. E poi facciamo. Ma non avrebbe senso. Io per questo ho detto 200.000 euro, perché non c'è nessuno che ha il coraggio di tirare fuori 200.000 euro. Per fare quello che ho detto, perché è normale che sia così. Perché io invece ce l'ho. Cruciani, si può fare per molto meno con chiunque altro. Si può fare per molto meno, certamente. Però, siccome secondo me tu meriti in tutti i sensi. Ma tu sei gay? Certo, assolutamente sì. Cioè, sei un gay molto molto ricco? E sono insomma benestante. Ma diciamo, perché mi priverei di un appartamento. D'accordo, ma perché mi dovresti dare 200.000 euro? Spiegami. Perché mi piaci. Vabbè, dai, adesso Luigi, stai scherzando, dai, su. No. Scusa, quando uno va a puttane, voglio dire, spende perché gli piace la cifra. Ho capito, ma 200.000 sono tanti, oh! Certo, ma se tu vuoi patteggiare, vuoi... Io 200.000 ho messo. Cioè, io 200.000 ho messo e 200.000 Però io voglio... fatemi spiegare il senso, perché sta veramente... Parenzo, sta sfuggendo di mano questa cosa. Cruciani, ma va suca! La Zanzara. Ciao Giuseppe, volevo dirti che ne ho le palle piene di sti vegani che laminano, che durano un sacco, che durano di più. Io ho un amante carnivoro con una discreta pancetta e duriamo tantissimo. Lo facciamo tanto e dura tantissimo, quindi la sfida è aperta. Amici vegani, fatevi avanti. Allora, ieri sera alla Gabbia, Parenzo, Cecil Kyenge è stata presentata e dal pubblico bu bu bu bu bu bu bu. Cecil Kyenge, Partito Democratico, frase cult: l'Italia è meticcia, peggior nemico la Lega Nord e le sue idee razziste, sogno proibito vedere gli abitanti di Lampedusa premiati col Nobel. Un applauso ai deficienti di questa curva. Allora, la sai la storia della nuvola di Fuxas, no? Sì, cioè, come no, una delle più grandi opere incompiute della città di Roma, certo. Vabbè, insomma, lui pare che sia... Sembra che stia costi finendo. Costi lievitati nel corso sì, degli vabbè, anni. Sì, vabbè, sembra che la cosa stia finendo. Senti che cosa dice Fuxas a un certo punto. Dice: la nuvola è praticamente finita. Poi elenca una serie di cose che non sono finite. Aspetta. Credo che a maggio, avete visto, no, non siete entrati dentro, l'opera è pressoché finita, stanno finendo di montare il telo e poi basta, c'è poche cose da fare, un po' di pavimentazione, ma poca roba. L'auditorium è finito completamente, si devono mettere semplicemente le poltrone che sono pronte, perciò non è un grandi lavori. C'è la pavimentazione da fare, le poltrone, quasi tutto c'è, cioè quasi tutto. Il sindaco di Corsico, Milano, dice che chi non ha i servizi sociali, insomma, i bambini esclusi perché i genitori non pagano la mensa. E il sindaco dice: giusto, perché io sono uno che paga, la gente deve pagare. Ecco, appunto, vedi, come dicevamo errante, prima. Errante, si chiama errante. Sono partito con 523 situazioni di morosità. sono e le riuscito... risolte togliendo il vassoio ai bambini, sindaco? Cioè guardi, sono, si sono modificate col vassoio? Guardi, io non tolgo il vassoio a nessuno, io dico che il servizio mensa è un servizio a domanda individuale. I soggetti non attenzionati ai servizi sociali sono soggetti obbligati a pagare. Sindaco, io ma i soggetti posso, sono i genitori, non posso, i bambini, mi guardi, perdoni. Guardi, cioè, la sovrapposizione mi pare inquietante, francamente. Io ho ricevuto un'educazione rigida da parte dei miei genitori che mi hanno insegnato a rispondere su quelli che sono le posizioni. I miei figli hanno sempre pagato e ritengo che sia un dovere di un genitore rispettare ma le regole civili di non questo hanno pagato paese. I suoi figli, sì. Allora, devo dire la verità, siccome i bambini non muoiono di fame certamente, siccome i bambini di questa città, di questa scuola non moriranno di fame a Corsico, perché i genitori se non mangiano sicuramente li faranno mangiare, siccome si tratta di famiglie che non sono bisognose... Beh, questo non lo sappiamo. No, lo magari... sappiamo perché lui ha detto... Lui ha detto no, che non sono attenzionate dai servizi sociali, appunto. Però magari molti di questi si vergognano, ragazzi, di andare lì, c'è bisogno di un approccio diverso. Qui è gente che non paga e dunque è giusto nei confronti di quelli che pagano che lui non dia più da mangiare. Cioè, è giusto che un sindaco non dia più da mangiare, tanto in qualche modo faranno, non è che muoiono di fame lì per strada. Beh, ma che c'entra? Perché solo costringendo i genitori, solo mettendoli di fronte al fatto compiuto, cioè avrebbero i bambini, dovuto chiamare i genitori, ma l'avranno prima. Già fatto, sono cioè, morosi già... queste cose qua non è che funziona, che non gli dai funziona, il vassoio, no, ma lascia perdere perché la cosa brutta, ma la cosa buonista, no, beh, non il è vassoio buonista. Ai bambini la cosa sì, è, no, no, ma se non i è genitori buonista, se i genitori che non pagano andavano convocati per capire, ma che convoca uno può perdere tempo, ci sono i bollettini da pagare, basta, no? Ma magari ci sono situazioni critiche in cui loro non sanno neanche che accedendo ai servizi sociali mamma possono invece mia, avere ragazzi, la mensa. Non è tutto così nero, mamma bianco, mia. Bianco, nero, paghi, via, via la mente. Pietro, provincia di Isernia, dai, Pietro. E il buon senso. Ciao, il buon senso. Pronto? Dimmi, dai, dimmi. Sì, no, io volevo portare l'esperienza riguardo ai piccioni, perché io ho una suocera fantastica che cucina i piccioni ai miei figli e li ha abituati da piccolo sì. a mangiare sano. Quindi sì. vorrei dire a chi è vegano, a chi odia gli animali, da che mondo sì. è mondo si è fatta sempre una cucina tradizionale e genuina. E ti posso dire che i figli hanno una forza, li vedi, nei confronti degli altri bambini che sembrano concimati. Vabbè, adesso quindi... non esageriamo, non è che chi mangia i piccioni ha più forza rispetto no, agli no, altri, no, dai, no, non no, diciamo non cazzate, dai. No, non parliamo soltanto di piccioni, parliamo di... Vabbè, Pietro, però non è che ci devi venire a raccontare, va benissimo, cioè, mangiare i piccioni per me va bene. Anzi, per ti dirò che con le uova di piccione vengono delle tagliatelle spettacolari. Lo so, infatti quindi... un sacco di gente mi quindi... ha scritto dicendo ci sono delle tagliatelle con il piccione che sono fenomenali. Sono spettacolari, quindi e vive piccioni lì dove si possono catturare e mangiare. Sì, sì, quindi... ciao Giulio, poi... provincia di Latina, dai Giulio. Sì, grandissimo, Cruciani. Dimmi. Senti, un saluto a Parenza e un augurio. Ciao, dai. Senti, ma vale lo stesso se noi raccogliamo i 200.000 e ingaggiamo, è una provocazione, ingaggiamo un noto attore che Valentina Rappi conosce bene, di colore, per farti il servizio? Sì, ma ragazzi, ma qui la cosa sta prendendo un'altra piega. No, sta cioè, quello che hai detto. Ingaggiamo una persona di colore. Non è che puoi dire scherzavo. Ma io ho detto, se vedo no, la se... No, poi di adesso scherzavo, no, ma io intendevo. Vai fino in fondo. Sì, io ho detto una cosa. Era solo una provocazione, perché altrimenti... Se le... No, le tue non sono provocazioni, sono pensieri veri, no, credo, ma ho detto semplicemente quindi che ogni cosa adesso può essere in vendita, anche la verginità anale, come l'utero per una donna. E io non lo credo. Ma poi vale la pena, scusa Cruciano, ma per 200.000 euro, no? No, varrebbe la pena che tu rinunci al lato B delle belle donnine che frequenti, eccetera. Dai, ma perché non è che perché devo rinunciare a questo? Spiegami. Eh no, perché magari ci prendi gusto, che ne sai? Ma che c'entra? Quello è un altro discorso. Parti dall'altra sposa, dai. Ma dai, non c'entra niente, dai. Giulio, dai, su, non dire, dai, non dire dai, stupidaggini, dai. No, ciao, ciao, Giuseppe, ciao, d'Alessandria, ciao. Dai. Poi non è che uno fa una colletta e poi ingaggiano uno che ha 30 centimetri, che cazzo vuol dire? Beh, ormai... No, uno che paga, fisicamente c'è uno che paga, c'è uno che paga, deve essere lui, non che sceglie poi lui, ma che è? Beh, no, ma chi c'entra? Questo adesso metti no? d'accordo sulle regole del gioco? No, io no, intendevo, io, volevo. Se permetti, lo decido io. No, ormai l'hai detto. Che bisognava andare a fare. No, le regole non le ho dette. Giuseppe d'Alessandria, dai. Pronto? Dimmi. Ciao, del tuo culo non mi interessa, Cruciani. Bene, ciao, ottimo. Tutte e due. Dimmi. Niente, volevo fare una considerazione veloce su questa questione vendole, eccetera, eccetera. Velocissima. A me non dà fastidio dal punto di vista, diciamo, biologico, utero in affitto, anzi, sono per le libertà individuali di tutti. Quello che emerge, secondo me, è un grosso buco normativo italiano. perché uno è discriminatorio, nel senso, sì, solo ma, chi ha, però scusami Giuseppe, però adesso che tu ci vieni a fare il recap, come si dice in inglese, no? Okay, cioè il riassunto del fatto che abbiamo, no, che abbiamo un buco normativo, ma lo sappiamo che in Italia c'è buco normativo. Aspetta, stavo aggiungendo un'altra cosa, fammi finire. Stavo dicendo, vediamo uno che cosa originale, vediamo l'originalità. No, originale, vediamo, niente. Vediamo, vediamo. Pazienza, sentiamo. Torno da lavorare, sarà stanco. Senti un attimo. Volevo dire che mi fai perdere il filo. Volevo dire che è classista come cosa, nel senso, solo chi ha un certo livello economico può fare certe cose. E allora? E allora? Non ho capito, che volete? Ludere in affitto democratico? Che volete? No, come la Boldrini che è tornata indietro sulle sue idee. Aspetta ancora un attimo, è fatta così questa trasmissione, si interrompe e si ricomincia, fermo. Allora, la Boldrini ha detto, se fosse gratis... Beh, peggio ancora. Cioè, se fosse peggio gratis, cioè, se lo facessero gratis, ma che vuol dire? Cioè, ma peggio ancora. Cioè, solamente le donne che non hanno bisogno, cioè solo le donne ricche allora. Cioè solo le donne ricche o comunque benestanti che non hanno bisogno di soldi possono praticare l'utero in affitto. Fanno pure mutuabile magari. Una bella stupidaggine. Incredibile. Giuseppe, allora? Dico al contrario, non stavo parlando dal lato della donna, stavo parlando da chi, ad esempio, una coppia lesbo o gay vuole avere un figlio. Non tutti se lo possono permettere, parlavo dall'altro lato. E l'altra cosa che vabbè, ma quello sì, che ma vuol dire, ci sono cose che non si possono, cioè, permettere, tu ti puoi permettere un bulgari? Ti puoi permettere un orologio bulgari? No, purtroppo no. Allora, un bambino non è un orologio, no, però ma per è un oggetto. Adesso, no, ma no, perché il concetto è esattamente quello, no, invece. Ma lui stava, stava dicendo un'altra cosa. Non tutti se lo possono permettere, come se volesse l'utero in affitto democratico. Ma non sì, è d'accordo, che... ma non è. Cioè, siccome il paragone è sempre con delle cose, ovviamente. E bisogna partire dal presupposto che un bambino non è una cosa. Purtroppo si paga non per è una tutto. Anche tu hai pagato l'utero per l'ospedale, anche tu paghi è per completamente diverso. Paghi per una cosa. I soldi ci sono. Ma cosa c'entra? È completamente diverso. Io non è che l'ho fabbricato. Ciao Stefano, devi aggiungere qualcosa? No, Giuseppe. Ah, sì, aspetta, l'altra cosa che volevo dire è che, ad esempio, le coppie che devono adottare un bambino, una normale adozione, fanno un iter che è un calvario. E allora? Ma non è anche questa grande novità che non sapevamo, eh? No, ok, non lo sai, però invece... Non lo sapevamo. Ho capito che lo sapevi, fammi finire la frase. Ti stavo dicendo che invece questa storia qui dell'utero in affitto salta tutto questo iter di idoneità, non idoneità, capisci? Ma no. Ma te credo, quello che c'è, devi adottare un bambino, in quel caso là, a parte che non è vero, perché comunque devi presentare dei documenti sullo stato economico, eccetera, eccetera. Poi sono due cose diverse, certo che sono due procedure diverse. Enrico Rizzi, chi è Enrico Rizzi? Crociani, lo sai chi è Enrico Rizzi? Buonasera. Che cazzo intanto hai chiamato a fare, Rizzi? Su, che vuoi, dimmi. Ma chi è l'animalista, l'ambientalista? Sì, l'ambientalista, il partito animalista, del sedicente partito animalista europeo. Che ci vuoi dire, Enrico, dimmi? No, voglio dire soltanto che, come al solito, tu hai la voglia, la volontà sempre di inferire sugli animali e di andare contro di loro. Ma che ho detto, scusa, che ho detto? Motivo. I topi, sui topi. Ti ho ascoltato. Ma vale, sui topi stavi dicendo? In macchina lavorando ti ascolto, che devo fare? Meno male. No, allora, però ti volevo dire una cosa, dico, al di là di quell'imbecille lì che ti ha scritto, che ha chiamato, che come al solito... Ha ammazzato un topo a Badilate. Ecco, ha ammazzato beh, un topo certo, a Badilate. Beh, certo, scusa, doveva fare? E che doveva fare con i topi, no, scusa? Dai il formaggio, guarda, non credo. Tu che fai? Fai il pifferaio? No. Li vuoi attirare fuori da casa con la musica? Voglio ricordare a te e a quel cretino che ti sta vicino, che questo... Sì, mi saluti reato, a casa, mi saluti tutti penale a casa. Visto mi saluti che siete tutti in una radio, comunque... Una radio, mi saluti tutti. Ricordiamo comunque alla gente che uccidere un animale in quel motivo è un reato. Cioè, non ho capito, se uno uccide un topo, aspetta un attimo, Enrico, se uno uccide un topo... Tu non puoi prendere un topo a bastonate, perché quello è un reato. Vai, no, ma dai, su, Enrico, non dire cazzo. Ma mi entra in casa, lo prendo a bastonate, come? Ma di cosa ma allora denuncia questo ascoltatore, ma tu vuoi ti do l'indirizzo, denuncia questo ascoltatore. No, guarda, ho mille cose da fare, non posso stare dietro. Cioè, se mi arriva un topo in casa non posso prendere la bandirate. Mi ascolta tanta gente, però quello che voglio dire io è questo. Dimmi. Tu hai detto comunque una cosa giusta, perché realmente a Roma, come in tante città, purtroppo c'è il problema effettivamente dei topi, che sono in tanti, cioè quello è un problema verissimo. Animalisti, dove siete? Però no, aspetta, non ti rispondo, però ti voglio dire soltanto questo. Allora, parti dal presupposto che comunque questi sono animali che vanno, diciamo, alla ricerca del cibo. Ma quindi, no, se ci sono i topi come tutti in città, come tutti, no, ma soprattutto i topi, come tutti purtroppo vanno alla ricerca del cibo, e quindi se ci sono i topi in città il problema sta sempre per colpa dell'uomo, dell'inciviltà dell'uomo. Prova a girare un po' Roma. Vabbè, Roma è zozza, Roma è zozza, no? Vabbè, certo. Ecco, bravissimo, quindi la colpa è della... Sì, vabbè, non solo per questo, i topi ci sono comunque. Tu stai dicendo che la colpa è dell'uomo, vabbè, questo lo sappiamo, dopodiché come si risolve la situazione? Allora, perché non torniamo come si faceva una volta con i gatti? È quella la natura. Ragazzi, no, questo ho detto anche i gatti, ma effettivamente. Due cazzari, no, tutte e due. Viene usato. Cioè, a Venezia. Tu sei d'accordo con Rizzi? Cioè, ti rendi conto? No, sei d'accordo con Rizzi? Eh beh, sì, d'accordo mi pare con Rizzi, sì. È raro. Però la questione dei gatti, purtroppo, vedi, ma un orologio diciamo, rotto, ragazzi, ma cosa l'orologio rotto due volte al giorno segna l'ora esatta, Rizzi è un orologio rotto, quindi due stronzate giuste su 300, in un anno le dirà, ecco una l'ha detta, aspettiamo la seconda. Cioè veramente tu pensi di risolvere... hanno usato i gatti, certamente, ragazzi, perché il topicida non solo è pericoloso per l'essere umano, che è la cosa che più mi preoccupa, perché se tu metti il topicida in giro per la città, con i bambini, le robe, i cani che mangiano il topicida, è molto pericoloso. Vabbè, comunque, aspetta, Enrico. Amministrazioni comunali lo hanno scelto di invadere. Aspetta, Enrico, scusami un attimo. Questo però non elimina il problema, perché comunque è sempre di animali. Guarda, che, di animali che mangia dal tuo punto, natura, no, ma dal tuo punto di vista. Io con te che non risolvi il problema, ma di sicuro lo riduci di molto. No, ma scusami, cioè, Enrico, dirti, se ma è sempre problema... animali che mangiano animali. Si tratta sempre animali morti. Ma abbiamo la natura, non c'è la crudeltà. Ah, la natura e la crudeltà. Cioè, un gatto che mangia un topo va bene, invece uno che prende a badilate un topo dentro casa non va bene. È diverso. Ma non è diverso. Quella è una crudeltà. Prendere un bastone e massacrare di botto un essere vivente indifeso, quella è una crudeltà. Ma un topo non quella è un essere vivente. Bene degli umani. Quella purtroppo un è topo natura, non allora è un essere vivente. Un topo non è un essere vivente indifeso. Ma che stai dicendo? Un topo è un essere vivente. Enrico non è un essere soffre vivente. Come indifeso. Ma soffrirà e pazienza se soffre il topo. Uno non può dire tutti quanti soffriamo prima o poi. Cioè anche un topo, e se soffre un topo non me ne frega una mazza. Scusami caro Enrico, scusami se te lo dico. Ma è così. Scusa, ma per te Cracco che cos'è? Un assassino anche guarda, per te? Scusami per dirti. Allora innanzitutto Parenzo ha detto una cosa verissima e stavo per dirlo io, perché proprio a Venezia effettivamente è stato è fatto così. Ti ripeto, di sicuro non l'avranno risolto al 100%, quello no, ma l'avranno ridotto come numero. Certo, ma, ma ho capito, sicuramente ma sono diminuiti. Io veramente non vi capisco, siete pieni di contraddizioni. Per comunque tutelare poi gli uomini, poi è pericoloso il topi, il topicida. È una contraddizione, perché tu da animalista dovresti... Quella è la natura, naturale. Dove ci sta il gatto... Ma che istinto naturale, se lo vuole mangiare, come noi ci mangiamo la carne, come noi mangiamo altre cose, come noi mangiamo gli animali, il gatto mangia il topo, dai su Enrico. No, vedi lì. No, sbagli. Non è la stessa cosa. Ti ricordo che non abbiamo bisogno di uccidere gli animali per mangiare. Anche il gatto uno potrebbe dare al gatto altre cose. Anche al gatto uno potremmo dare altre cose. Non è così, è come il leone che uccide la gazzella, quello va bene, la natura. Scusa, va bene. Un'altra cosa prima di lasciarci. Ma su questo non dice una scemata, ha ragione. Cosa, dimmi. Tanto, per dirti, io adesso vabbè, sto in centro storico, dico da me a Trapani, però prima stavo in campagna. Io il problema dei topi l'avevo in campagna. Sai cosa utilizzavo? Utilizzavo gli ultrasuoni. Dove tu metti gli ultrasuoni? Sì, sono degli strumenti che non costano tantissimo, tra l'altro. Li compri con 10-15 ma poi vanno euro, da un'altra parte e mettono dei... Sì, ma li allontani, ho capito, ma se tu a Roma comunque fai un piano... Gli ultrasuoni, c'è Roma in base utilizzi... dagli ultrasuoni. Ma no, in base agli ultrasuoni, non ti sto dicendo questo, ti sto dicendo se fai un piano dove vai a cercare appunto di ridurre il problema... Ma come fai con gli ultrasuoni? C'è un rumore pazzesco. Pulendo la gente che lascia la spazzatura in mezzo alla strada. Ma gli ultrasuoni che vuol dire concretamente? Concretamente che vuol dire gli ultrasuoni? Gli ultrasuoni sono degli strumenti che i topi percepiscono dei suoni, ma tu no, l'essere umano non li percepisce. Ah, l'uomo. Prendono paura e scappano. Ho capito. Ma Cracco, per chiudere, Cracco è un assassino? Come, scusa, non Cracco, secondo te è un assassino perché cucina il piccione? Ma guarda, io ho seguito questa storia, onestamente non me la prendo più di tanto. Vabbè, a parte dico che il piccione effettivamente non si può uccidere, ma al di là di questo dico non mi va di condannarlo, perché abbiamo tantissimi cuochi in Italia che uccidono gli animali, quindi dovremmo condannarli tutti. E perché non trapiti come perché non te la... Sì, certo, non c'è dubbio. Io il Partito Animalista Europeo non ha preso. Ma perché non sei andato a fare casino con MasterChef invece di prendertela con l'animalista? Non ha preso. Vabbè, posizione. Adesso devo chiudere. Ciao Enrico, a presto. Ciao. Gianni, le tagliatelle al piccione sono veramente al top. La Zanzara. Ragazzi, dobbiamo dare il traffico in questa assurda interruzione, in questa trasmissione che non è una trasmissione. Questa trasmissione è praticamente un intermezzo tra una... cioè copre... pubblicità, esatto, traffico, copre meteo, gli spazi tra borsa, la pubblicità, giornale radio, però borse. Il traffico è utilissimo. Strano, strano che non ci sia pure, che ne so, un suggerimento per l'estetica, un due minuti, beh, che ne so, sarà, di rubrica sponsorizzata su come pulirsi le unghie, su come pulirsi il sedere, non lo so, cioè bisognerebbe... Beh, quello non penso lo facciamo lo noi direttamente. Ecco, esatto. Allora, caro Rizzi, c'è una signora che si è manifestata, si chiama Federica Marchetto, ho ucciso un topo col badile entrato nel garage, sono io, Federica Marchetto, dico al signor Enrico di denunciarmi per questa cosa. Dunque Rizzi, c'è un nome e un cognome, Federica Marchetto Gallarate ha ucciso un topo a Badilate, se vuoi adesso denunciala. Tu che fai quando vai a dormire? Ti sogni traffico. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Vi presenta La Zanzara. È possibile avere una t-shirt con la faccia di Cruciani con scritto fa come Cruciani, lavati domani, e poi magari delle mutande però invece con la facciona stampata di dietro di Parenzo? Sarebbe molto bello, grazie. Allora abbiamo in attesa Stefano da Padova, Alessandro da Pisa, Domenico da Milano e altri ancora, 800 24 00 24. Prima però, caro Parenzo, si chiama come Salvini, cioè omonimo di Salvini, Lega Nord, segretario, sai chi è Salvini, no, Davide? Sì, me lo ricordo, me lo ricordo ancora. Si chiama però Simone, non so se questa omonimia con Salvini gli dia fastidio o no, adesso glielo chiederò. È uno chef. Beh, siccome è danneggiato da questa roba. Ma che ne sai? Adesso beh, un po' danneggiato, perché... Ma tu sei veramente Salvini. Impazzito, cioè sei veramente di un antileghismo. Beh, insomma, viscerale. No, viscerale. No, antileghismo, ma sai, ti danneggia alle volte il cognome, cioè, se uno che porti. Se uno si chiama Salvini, secondo te è danneggiato? Beh, dipende come la pensa, ovviamente, no? Ma insomma, sì. Potrebbe essere danneggiato. Vorrebbe, dice, avere tra i popoli membri della famiglia sempre persone rispettabili, no? Cioè, se io, ad esempio, mi chiamassi Maso... La rispettabilità è incredibile. Beh, sì, se mi chiamassi Maso, c'è qualche problemino, forse ce l'avrei. Poi, per carità, tutte persone che va bene, figuriamoci, ma insomma. Allora, Simone Salvini è uno chef che, tra l'altro, non credo che sia vegano, ma vegetariano. Il ristorante si chiama Ops a Milano, credo a Milano, anzi, forse no. E soprattutto è diventato famoso, cioè è diventato famoso, sarà già famoso di suo nel suo ambiente, però è lo chef che è stato imitato da Crozza, capito Parenzo? Sì, quello come no, quello bellissimo, delle zucche. Quella della zucca che piange, ottimo. Sì, Salvini, sì, l'ho visto. ciao, buonasera, ciao. Ciao Giuseppe, ciao Davide. Come stai? No, non chiamarlo Salvini, chiamalo chef, fidati. Lo danneggi, Simone. chef Simone. Ma dov'è il tuo ristorante? Senti, il ristorante che tu hai citato in realtà non è più mio e si trova a Roma. Io sono stato lo chef. Ragazzi, perché mi scrivete cose sbagliate su cosa? Scrivetemi, ristorante... no, non c'entri niente tu, stavo dicendo chi me le scrive. Mi hanno scritto, guarda, due cazzate in una riga. Chef vegano ristorante Ops. Allora, primo non è vegano perché sei vegetariano, se non sbaglio, giusto? Ma sono vegano, però come vegano? Preferisco utilizzare la parola vegetariana perché è un pochino più rassicurante. E anche che vuol dire più rassicurante? Spiega. Ma perché, non so, lo vedi anche nella tua trasmissione, quando parli di veganismo si creano sempre delle mura, si creano sempre delle mura. Amico mio, le mura. Ci sono quelli che io ho chiamato i nazi vegani, che hanno fatto un'irruzione da Cracco ieri dicendo che è un assassino perché cucina come si chiama, il piccione, dai. Giuseppe, io non mi associo a queste persone qua, mi spiace, li prendo le distanze. Appunto. Magari abbiamo delle abitudini che tono moderato. Simili, ma solo quelle, insomma, solo quelle. Solo quelle, cioè secondo te Cracco non è un assassino? Ma assolutamente no, a parte è un amico e quindi e comunque, cioè non è solidarietà tra chef, stai dicendo, è semplicemente... ma no, lui pensava probabilmente di fare una cosa tradizionale, normale, poi lui ha scelto di fare questa... Cioè tu lo cucineresti adesso... un piccione? Ma certo che no, come faccio? È come chiedere a uno chef che fa cose kasher ebraiche di cucinare il maiale, no? Ha ragione. No, però c'è una cosa. Allora, io non ho capito una cosa. Simone, tu sei vegano o vegetariano? Innanzitutto, chiariamo. Io sono vegano. Sono vegano. E anche se spesso così sgarri. Utilizzo il termine vegetariano perché vedo che per le persone è una parola che è più... No, però spiegami, no, ma questo è interessante, cioè tu stai dicendo che soprattutto penso negli ultimi tempi la parola vegano sta diventando quasi un'offesa, cioè quasi una no, cosa respingente. Sì, ma questo probabilmente è anche il demerito nostro, non siamo riusciti a mostrare le bellezze, le meraviglie della cucina vegana, ma abbiamo troppo marcato l'impostazione etica, fino poi ad arrivare al talebanismo. Ho capito, appunto, cioè, tu stai dicendo che molti dei vegani che si sentono magari in televisione, nei giornali, intervistati, in realtà sono dei talebani. Non dico che sono dei talebani, a volte sento che c'è la voglia di additare agli altri la strada da seguire. Esatto, questo non è il mio ruolo. Esatto. Però Giuseppe, per favore, non è questo il mio ruolo, io sono un cuoco. No, no, ma ho capito, però non vuoi litigare con nessuno. No, ma io non ti voglio far litigare. Però no, Simone sta dicendo una cosa molto, secondo me, molto corretta, molto giusta, che è questa. Cioè, sta dicendo che il modo in cui viene presentato il veganesimo, diciamo, in televisione o da altre parti, da parte di molti cosiddetti guru del veganesimo, è una specie di quello che io chiamo, non l'ha detto lui, quello che io chiamo nazi veganesimo, cioè ti vogliono indicare la strada e se non percorri quella strada in qualche modo sei colpevole di qualcosa, sei colpevole di distruggere il mondo, sei colpevole della, no, della mantenimento del pianeta, eccetera eccetera. Sbaglio, Simone? Senti Giuseppe, sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto. Io penso che quello che noi abbiamo imparato lo possiamo soltanto offrire agli altri, poi sta all'altro. Cioè, chi non è vegano non distrugge il pianeta, non affama il mondo, cioè non è un pericoloso personaggio che uccide gli esseri umani. Penso proprio di no. Penso proprio che noi al centro dobbiamo rimettere l'uomo, non il veganismo, a mio avviso. Insomma, l'uomo in tutte Salvini... le sue. Anche dice Salvini, cose intelligenti. Dice anche un Salvini, dice cose intelligenti. Esiste un Salvini che dice cose anche, come dire, inclusive, non esclusive. Mi piace. Ti dà fastidio Salvini. Chiamarti Salvini? Tutti i lunedì va chiamato Davide, Salvini. Davide Giuseppe, io con Salvini ho in comune una cosa molto importante, che amo Milano. E questa è una cosa che ci accomuna. Su altre magari siamo su posizioni leggermente certo. distanti. Ma non ti dà mica fastidio chiamarti Salvini? Ma assolutamente no. E poi io sono Salvini da alcuni anni prima che lui si chiamasse Salvini. Beh, non lo so, questo perché da generazioni, Salvini da generazioni. Alla generazione dice no, perché è più grande forse. Sì, qualche anno. Sì, non senti, hai mai Simone, pensato di cambiare il cognome? La però, cosa no. che ti voglio chiedere però no, non penso. Poi però, Salvini è un cognome toscano, sono più Salvini io. Ma poi è super diffuso, dai, non è un nome. Esatto. Non è un però, nome la famiglia Guelfa, è di origine Guelfa. Senti Simone, ma davvero pensi che tu, io non credo che la zucca piange, davvero piange la zucca. Ma quella è una battuta televisiva, mi è venuta, abbiamo fatto quelle trasmissioni con leggerezza incredibile, sono anche orgoglioso di averle fatte per Sky. E non avevamo provato niente, ho detto quella frase. Ma vabbè, ci credi o no? Era solo una battuta. È una battuta, anche se ovviamente bisogna avere rispetto. Ecco il senso del piangere. Cioè, rispetto per le verdure, dici? Ma rispetto per la spesa, cercare di sprecare il meno possibile. Beh, questo che vuol dire fare questo che c'entra col piangere, col fatto di che hanno un'anima le verdure. Cioè, le verdure hanno un'anima o no? Questo ti voglio chiedere. Le verdure hanno una sensibilità non sviluppata come la nostra, però. Ma non hanno i neuroni? Come fanno a sentire dolore, per intenderci? Dai, Simone, caro Davide. Non hanno neuroni, capito? Quindi. In realtà però non è così semplice l'argomento, perché ci sono un sacco di scienziati che negli anni passati hanno detto delle cose leggermente dissimili. Cioè tu sei convinto che hanno un'anima, una sensibilità, le verdure? No, non dico che hanno un'anima. Non dico però che hanno sensibilità. Può darsi. Ci sono delle macchine, ad esempio, che registrano delle cambiamenti energetici all'interno delle piante. Beh, quando sì. queste vengono tagliate. C'è chi parla alle piante anche, certo, sì, questo è vero. C'è chi parla alle piante. L'utilizzo di elettrodi, di macchine ovviamente. Cioè ci sono delle macchine che captano dei movimenti energetici all'interno delle piante. Questo non vuol dire... Giuseppe, questo non vuol dire che sia sinonimo di pianto, non dico questo. Però che possa accadere qualcosa di... da studiare. E come le piante, rispetti tu le piante? Scusa, quando cucini come le rispetti? Le ma metti facendo, su? Ti faccio un esempio. Come le cuoci? Comprando le cose che mi servono e non mettendole in frigorifero magari per chissà quanti mesi, settimane. Perché se dopo... stanno in frigorifero che succede? Non succede niente, però bisogna comprare le cose fresche, magari possibilmente di origine. No, ma le cose, ma le verdure, che succede se stanno troppo in frigorifero? Beh, no, vabbè, quello non è un'indicazione alimentare. Ma no, ma quello non succede niente. Soltanto che dico alle persone che ci stanno ascoltando di andare a fare la spesa non con la fame. Vabbè, ma quello però è un'indicazione alimentare, non è un'indicazione che riguarda, come dire, l'energia e la sensibilità delle verdure. Cioè, tu dici non le vuoi mettere nel frigo perché magari sentono freddo, che ne so. Ma no, non ho detto questo. E come le cuoci? le cuocio a seconda della ricetta che voglio fare, le puoi cuocere come vuoi. Ma insomma, è vero che le metti sul termosifone? Questa è una ricetta che ho fatto per una trasmissione Impatto Zero. E perché sul termosifone? Ma perché sì, voleva essere anche un gioco, volevamo utilizzare degli strumenti alternativi al fuoco. Allora ho detto, perché non fare le verdure essiccate, le appoggi sopra al termosifone, non accendi fuochi e risparmi, e quindi utilizzi il calore del termosifone per fare un processo. Parenzo, perché non ci pensi pure tu a casa tua con tutti quei bambini e c'era le verdure essiccate sul termosifone? Ci mancherebbe altro. Io questo... Ma Giuseppe, però ti mangio la verdura bollita e basta. O hai ferri. Ho capito perfettamente. Era un gioco, però sai, non si gioca mai quando uno è in televisione. Cioè, tu metti le verdure e sicca sul termosifone, la persona guarda e dice: fammi provare un attimo a casa a mettere le verdure. Ci vuole delle ore, ci vuole. Vengono benissimo. Senti, vengono benissimo. Ciao, ma Simone. Delle ore ci vogliono, però. Ciao, dai. Simone, buona serata. Ciao, ciao, ciao, buona serata a voi. Ciao, le verdure essiccate sul termosifone, ragazzi, è il top. Non ce la faccio più. Non vi supporto. È un programma brutto. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta La Zanzara. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. There's a voice in my head that drives my heel. Cruciani, stamattina sono andato a chiedere il mutuo in banca per il tuo sederino. Aspetto notizie, appena accettano la richiesta, inizia a mettere la leocremina al sederino. La Crucia, mo l'hai trovato e mo so cazzi toia. Allora David, io però proverei a fare a questo punto le aspettative di questi signori, di questi ascoltatori. Perché tradire le aspettative? Ma io non sto dicendo niente. Fai io voglio qualcuno gesto di generosità, non guardate niente. Alla fine va bene per voi, per la radio. Ma anche per voi, per la radio. Io ho detto una cosa: se qualcuno si presenta con 200.000, siccome l'ho detta, io sono coerente. Se qualcuno si presenta con 200.000, cosa che non avverrà chiaramente, non avverrà. Se qualcuno si presenta con 200.000, io perdo la mia verginità anale. L'ho detto. Cioè, l'ho detto all'inizio come provocazione, adesso, siccome l'ho detto, lo mantengo. Ma tutto questo non avverrà. Te lo posso dire io, non avverrà. Perché è chiaramente un paradosso per dire che ogni cosa ha un suo prezzo. Paradosso, io l'ho messo molto alto il prezzo. L'ho messo molto alto perché secondo me è un prezzo. È altissimo. Ma 200.000 per. C'è qualcuno disposto non a pagare 200.000 per un'inculata? Se dai, si mettono insieme tutti gli ascoltatori, si arriva a quella cifra tranquillamente. Io stesso sono pronto a mettere 200. Vabbè, ma 200 euro che è? Devi arrivare a 200.000. Dai, posso arrivare anche a 500 euro per avere la tua condizione. Però devi avere la certezza che si arrivi a 200.000, naturalmente. Ah, beh, certo, ci mancherebbe altro. Se no, non è che a babbo morto, no? No. Io proverei, caro David, a fare un collegamento con la California. Perché secondo me Vendola è ancora lì. Vendola è ancora lì. Ma, e secondo me qualche possibilità di metterci in collegamento con lui ce l'abbiamo. Aspetta un attimo. Aspetta. Vediamo un po'. Beh, il suono è quello giusto, eh. Buono Tobi Antonio, buono, nella vecchia fattoria, quanto è bello il mio Tobia, c'è babbo Niki, Vendola, non trovo il biberon, Vendola, sì, scusi, Sono Cruciani, Radio 24, salve. Adesso me l'avete svegliato. Stava dormendo così beatamente. Beh, no, ma non mi pare che dormisse, scusa. Scusi. Stava dormendo, Vendo. L'avete svegliato con questo suono. Come? Ah, col telefono, dice. Ma com'è questo Tobi Antonio? Dato che ci siamo ormai, l'abbiamo svegliato. Sento che strilla come un pazzo, ma d'altra parte... È bellissimo, è meraviglioso. Mi assomiglia molto. No, ma come fa a assomigliare? Scusa, ma al limite sarà Ed, cioè No. Ma io scorgo il simile nel dissimile. Se volete vi mando su WhatsApp la sua foto. No, ma ho visto che ha mandato le foto, cioè ho visto, si è saputo che ha mandato le foto. Mandate ai miei amici. La sorella, sì. Tobi Antonio è figlio di una bellissima storia d'amore. Vabbè, questo lo sappiamo. Non c'è volgarità degli squadristi della politica che possa turbare la grande felicità che la nascita di un bimbo mix. No, ma regala. Che bimbo mix? Buono, era una trasmissione. Buono cocco di mamma. No, che c'entra buono la mamma? Buono cocco di mamma. Beh, non c'è la mamma. Ma dov'è il biberon? Forse deve essere allattato. Ma scusi, nella forse. Ma forse. Ia, oh. Sì. Mi spiace pure disturbare. Ma deve mangiare quello, non è che deve le canzoni di vendola. A proposito. Sì. A proposito, so che anche David ha avuto un bimbo. Sì, anche lui con l'utero in affitto. No, assolutamente, lì era, come dire, era nominale, era un conosciuto quell'utero. Nominale, di che sesso è? Maschio? È un maschietto, sì, è un maschietto. No, gender. no, spero che lo lasciate orgogliosamente scegliere. Maschietto. Spero che lo lasciate scegliere liberamente. Beh, nel futuro quale sesso scegliere. Non ci siamo posti il problema, ma è maschio, guardi, è sicuro, onorevole. Va bene, caro. Però Bendo, allora, lei mi perdoni ancora questa cosa, lei Parenzo è un diverso. No, cioè, ma che io senso? Non lo sapevo. In che senso diverso, scusi? Vabbè, ma non possiamo. Cioè, ma perché lei risponde al telefono? Scusi, signor Bendo, lei risponde al telefono. E adesso me l'avete svegliato. Lo so, vabbè, allora, vabbè, e siamo condannati al filo spinato del pregiudizio. Ma no, ma non c'è troppo il suo pregiudizio adesso. Buono. Vabbè. Ma deve mangiare. Fattoria, buono. Quanto è bello il mio zombie. Vabbè, incredibile, guarda, allora risponde al telefono mentre sta allattando, cioè sta dando il latte al bambino. Massimiliano da Bergamo, vai Massimiliano. Sì, buonasera. Dimmi. I comunisti, rivogliamo i veri comunisti, quelli che mangiavano i bambini, non quelli che li compravendono, perché la compravendita attiene al capitalismo, non al comunismo. E come hai detto tu, la cazzata tra le tante, che ogni cosa ha un prezzo, allora se è una questione di prezzo, quanti bambini può adottare la Coca-Cola? Perché non li facciamo coltivare direttamente alla McDonald's? Così poi non hanno diritti, lavorano direttamente dal datore di lavoro che anche il genitore li allatta. Vedi che ragioni col cazzo, anzi col culo. Di che stai parlando? Scusa, non ho capito. Di cosa stai parlando? La Coca-Cola? Stai dicendo delle cose messe insieme senza senso? Cioè... Sto traendo le conseguenze dal tuo ragionamento. Ogni cosa ha un prezzo. Se ogni cosa ha un prezzo, se i requisiti sono solo... Sì, ma non sto parlando di una cosa fuori legge, sto parlando di una cosa che esiste in alcuni paesi già. Cioè non sto parlando di una cosa... Beh, non è detto che sia giusto. Io ho detto però, una cosa... No, sì, ma ogni cosa ha un prezzo, sembra che uno... Allora, va bene, ti do i soldi e così uno violenta un bambino di 5 anni. Che cazzo c'entra? Sto parlando di alcune cose che già esistono. Non sto parlando di cose che sono fuori dal consesso della civiltà umana. Sto parlando di cose che già esistono in alcuni paesi civili, non in alcuni paesi. Anche la nel tortura bozzo. Esiste nel contesto. No, veramente la tortura. Ti segnalo che la tortura è molto molto limitata. È molto limitata. Quella, diciamo. È combattuta la tortura. Poi alcuni paesi la praticano di nascosto, che è un altro discorso. Allora, avere figli non è un diritto. Nessuno dice questo. Nessuno dice questo che è un diritto. È una facoltà della natura. Se voi guardate la Costituzione del paese civile che è l'Italia, la parola amore, visto che l'amore è uguale per tutti, non c'è. Cosa c'è c'entra? La parola diritto naturale. Ma io non ti sto dicendo che è un diritto. Io non ho mai pensato che fosse un diritto avere i bambini. È un errore anche impostare la cosa così. Cioè, è assolutamente un errore. Io sto parlando di una cosa molto semplice, che è l'utero in affitto, che è una pratica che esiste da tempo. Abominevole, perché, vabbè, perché è abominevole? Per me no. Mercifica un essere umano che non ha chiesto di essere affittato, noleggiato, ordinato. Ordinazione e di non conoscere sua madre, questo lui non l'ha chiesto, capisci? Ho capito, ma poi una volta che nasce? Poi c'è una cosa naturale, una volta che nasce è avvenuto un abominio che è la compravendita, è avvenuto un abominio che voi volete poi legalizzare. Però un conto è un bambino che viene abbandonato dopo che Bravo, è nato da una madre che non lo vuole, esatto, quella è una tragedia, esatto, ma che vuoi fare? Esatto. La madre non lo vuole e lo abbandona. Un conto è scientificamente fare sì che questo bambino non abbia una madre per definizione, ma mi pare abbastanza evidente. Può essere l'Ucraina che va alla clinica, prende 10.000, 20.000 alla clinica e tu c'hai il figlio che viene staccato dal figlio. Invece andiamo in Olanda. In Olanda hanno sposato 5 persone, lo sapete? Ma no, in Olanda c'è stato non è vero, non è permesso in Olanda il matrimonio di 5 persone, non dire stupidaggini, non è permesso. Ciao Stefano da Padova. Stefano, dimmi, dimmi caro. Pronto? Ciao Giuseppe, ciao, ho tolto l'auricolare. Niente, io sono un medico e mi curo di terapia antalgica, la mia specialità. Cioè sei anestesista? Come che ti reputi? Anestesista, il dolore. Cosa il dolore. Sì, terapia del dolore. Guarda, io ho una grandissima ammirazione per te perché ti reputo uno dei grandissimi gourmet della figa. E quindi io di te ho un medico, eccolo qua. Sì. Medico, no, anestesista, sì, che dice che sono un gourmet della figa, ma questo qua è un'affermazione che dice lui, ma insomma, allora... Ma no, aspetta, io mi offro volontario per posizionarti il catetere periturale. Catetere periturale. Ma perché? Ecco, sì, certo, per il dolore. Sì, ah, certo. Per il dolore, sì, dici? Sì, perché io ti voglio bene e ho molto rispetto della persona. Cioè tu dici, quando qualcuno tirerà fuori 200.000 euro per inchiappettarmi, tu sei lì pronto, ti offri per mettermi il catetere epidurale. Gratis, beh, questo è importante, ma con 200.000 euro, sai, 500 te li posso dare per questo servizio, una volta che incasso. Guarda, io ho, siccome ho grandissima ammirazione per te e anche del signor Parento. Grazie, sì, ma tanto per me non c'è bisogno, perché io non... Però pratico. Lui non prende il catetere, non lo prende, no, non avrà bisogno, no, perché non lo prenderà nel non culo. Pratico io. Grazie Stefano, ne terrò conto, grazie. Allora ragazzi, prima della fine voglio presentarvi una ragazza, una signora, non so come definirla, una blogger, che ci illustrerà l'ultimo ritrovato. Parenzo, è una cosa economica molto importante, sì, nel campo dei sex toys. Ah, ecco, pensavo la cosa è incredibile. Sì, lei si chiama Bettina Zagnoli. Ciao. Già Bettina, speravo. ciao, buonasera e grazie. Ciao, grazie. Ecco signora, tu sei buonasera. Esperta tra le altre cose di sex toys, vero? Sì, esatto, io mi occupo di questo settore da tanti anni, quindi cerco sempre di essere sul pezzo. Esatto. Sei andata a Parigi, diciamo, recentemente? Sì, che c'era una fiera? C'era una fiera importante della lingerie a cui partecipano anche distributori di sex toys di design un po' particolari. Certo. Capito, infatti... Poteva andare anche al d'Orsay, magari un 5 minuti. Ma magari a va anche al museo, d'Orsay, che ne sai? Esatto. Ma esatto, cosa ne sapete? Oppure al Crazy Horse, no? Ma sì, certo, uno può andare, quando, può andare a vedere i sex toys delle novità. Non c'è anche dubbio, al c'è museo dubbio. Dell'erotismo, che sembra, sì, affascinante, molto bello, quello, no? È molto bello. Ma molto, sì, e tra le cose che mi hanno incuriosito molto è che ho letto sul tuo blog, c'è una cosa molto interessante, caro Parenzo, che potrebbe essere una svolta. Vediamo. Ed è praticamente no, ma uno lo dice ridendo, ma in realtà sono cose molto serie che fanno girare l'economia. Oh, cara. Ma io ti adoro, di solito do del lei, no, però dammi mi permetto di dare esatto del tu. Ti prego, ti adoro, perché già questa premessa è molto... Allora, insomma, si tratta di una praticamente della fellazio turbo artificiale. È un prodotto per gli uomini, Esatto, sconvolgiamo un pochino gli ascoltatori, perché in effetti... Sono abbastanza abbezzi, diciamo, comunque, certo, però insomma, per ciò che riguarda la masturbazione maschile, sono sempre dei gran pecoroni e dicono no, ma basta Federica, la mamma amica. Oppure per la fellazio... Ecco, come funziona questo aggeggio della fellazio turbo artificiale? Esatto, praticamente è un oggetto... adesso è un po' difficile spiegarla alla radio, comunque io dico una sorta di paletta, che è anche un po' brutta come una paletta, definizione, una specie di paletta, sì, tipo quella dei vigili, diciamo, in piccolo, in silicone di design comunque molto particolare. All'interno c'è un foro con delle linguette circolari che io definisco petali, perché insomma petali, una cosa petali, un po' più certo, ormai è più petali la signora, vabbè, esatto. Se no, i petali, io non mi abbasso ai livelli della volgarità o no, del figuriamoci, okay. Petali. A Allora, i petali all'interno di questo, diciamo, foro. Esatto, di questo quindi si inserisce il pene dentro, non c'è dubbio, questo, il petalo, in questo foro, e poi con un pulsantino si avviano in rotazione questi petali, che ovviamente provocano piacere. Vabbè, e signora mia, il pene. È una specie di, ragazzi, sì, diciamo la verità, è un aggeggio che serve a simulare una fellazio, diciamo, serve a simulare una fellazio. Esattamente. Quanto costa un aggeggio del genere? Tanto per essere... Dunque, adesso deve ancora praticamente essere... Più o meno, quanto costerà? Costerà sui 70-75 euro. Cioè, ragazzi, la cosa è questa, se voi avete difficoltà, non volete uscire, non trovate... avete una partner che non è proprio bravissima, perché bisogna sottolinearlo. Addirittura tu dici che potrebbe essere un'alternativa, un'alternativa. Potrebbe essere un'alternativa, assolutamente, dici. Sì. Potrebbe perché essere ci sono donne sì che praticano male oppure non praticano addirittura. Quindi, beh, adesso quindi che non praticano, sai che una volta mi è successo, caro David? Una volta mi è successo anni fa, ero in Francia. Adesso, tanto per fortuna posso dire una cosa, tanto non ci ascolta sicuramente. Una mia fidanzata francese non praticava la fellazio. Incredibile dicto. Cosa... Beh, no, è una cosa clamorosa, ma sto parlando di una cosa, non di che avevo, diciamo, 18 anni, 16 anni. So. Mi scrive mio cugino Gabriele che vuole ancora, vi sta tornando a casa come al solito verso la vorrebbe sua capanna, vorrebbe Monza. Capanna. No, vuole altre informazioni sulla Gabriele, dico solo il nome, non il cognome della professoressa. Vedi, ha scritto la professoressa tre puntini Gabriele, sì? Capito? Che ti ha scritto? Allora, la signora si chiama Bettina Zagnoli e ha detto che bellissima Gabriele, grande manager. Siccome che è stato incuriosito da questa storia, alcune donne non praticano oppure praticano male, potrebbe essere un'alternativa anche a queste cose qua. Ma approfondiremo nei prossimi giorni, perché adesso non abbiamo più tempo, ma ti richiamerò, cara Bettina. Perché devo illustrare altri aggeggi che possono essere utili, capito? Ti abbraccio fortissimo, va bene? Ciao, cara. Ciao Bettina. Cosa ne penserà Squinzi della colletta per inchiappettare Cruciani? Siamo al top. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.